In una parola, Platinette. Perché Platinette, hai capito? Ci assolve da tutti i nostri mali, da tutte le nostre malefatte. Sono cattolico, ma sono giovane e vitale perché mi diverto le minchiate il sabato sera. È vero o no? Ci fa sentire la coscienza a posto, Platinette. Questa è l'Italia del futuro. Un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte. E questo che devi fare tu. Occhi del cuore, sì, ma con le sue pappardelle, con le sue tirate contro la droga, contro l'aborto, ma con una strana, colorata, luccicante frociaggine. Ciao a tutti e bentornati a quella merda di programma che è Morti di Bestemmie. Se ci state ascoltando siete morti di bestemmie pure voi. E qui con me, oggi non mi presento ma presento soltanto i miei cari ospiti, da Roma, Mario Pizzi. Buonasera, buonasera a tutti, ospite ci sarai te, tre quarti della palazzina tua, questa è la parte più importante. E qui accanto a me gli do una bella gomitata a Mario Gualdi. Porco due, porco due. Potremmo andare avanti tutta la notte. Esatto, così. esatto. Però questa volta ce l'abbiamo davvero l'ospite. Perché è una cosa brutta, noi in realtà siamo succeduti a tre altri poveri disgraziati, la famiglia Biggio, che però non riusciamo a togliercela, come la macchia di sugo che ti rimane sulla giacca, capito? E quindi è rimasto un Biggio. Sì, però non è Biggio. Non è. Ah sì, è un Biggio, certo, è Mario Biggio. Mario Biggio. Bravo Mario Biggio. Porca del dolore. Detto fra i denti. Ma come stai, caro Mario Biggio? Mi stanno dicendo dalla... Aspetta, no. Prego. Sto cercando di capire perché non si sente molto bene quello che dicono gli altri. Perché? Ma noi ci sentiamo benissimo. Va bene, mentre vi intrattengo dicendo che ho mangiato la sarsiccia a cena. Ah, sarsiccia! Ma è la sarsiccia italiana o è quella? Non è proprio italiana, non lo so. Non è di porco bue, quindi. No, era un po' di porco bue. Dovete morire di bestemmie anche per questo, perché adesso ogni volta che c'è la sarsiccia penso sempre ad Alex. Sei vegana? Sì, sì, proprio. Molto vegana. Sei vegana? No. Quindi la povera amica nostra dell'altra settimana, dell'altra volta, niente, la dobbiamo. Cioè... Ma quella potrebbe morire prima o poi di qualche malattia provocata dalla veganità. Ma anche i vegani devono un po' morire. Veganalità. Tra l'altro, tra parentesi. Ma allora sarà un sacco di gente in questa diretta. Sì, ma non, non riesco a sentirvi, cazzo. Forse è per quello che c'è tanta gente. Quando ci sentiranno se ne andranno. Dove cazzo era finito quella merda di roba che consente di infilare così? Porco zio. Che noi non facciamo le prove prima di trasmettere. No, noi sei stato tu a dire partiamo. Io no. È messo velocità. E l'altra cosa invece è che ogni volta che c'è della carne penso questo che carne è io di porco bue. Porco bue. Ed è, quindi niente, chi è? Raccuglia, devi morire di bestemmie. Sì, no, devo morire di bestemmie di brutto. Devo solo capire dove cazzo infilare sta roba. Il che... Cioè, noi un'idea ce l'abbiamo, però non te la diciamo. Ma stai usando il programmino di Spreaker? Sì che sto usando il programmino di Spreaker, però... C'è la chiamata Skype direttamente da lì. Da qui? Ah, perché la chiamata l'ho fatta io. E allora vaffanculo, porca puttana, miseria troia, lurida bastarda. Morti di bestemmie. No, perché è colpa mia? Perché è colpa mia? Perché non è che mi hai detto chiama? Che cazzo chiama? Non lo so, perché non avevo amico P, Biggio. Devo chiamarli io. Partecipo alla chiamata facendo così. E adesso ci sentite? No, mi sa che non ci sentono neanche adesso, Ma come no? Facciamo la prova, no? Questa è la prova. Adesso ci sentite sicuramente. Ah no, aspetta, forse ho capito. Provate a parlare. Proviamo a parlare. Oh, dovrebbe essere ci siete voi. Oh, ci siamo. Grazie, finalmente. Grazie. La colpa non era mia, anzi era mia, ma fa niente. L'importante è aver risolto il problema. Vabbè, dai, visto che abbiamo già fatto 6 minuti di trasmissione, fra 37 minuti dobbiamo interrompere. E ci siamo ammazzati di bestemmie da soli. Ci siamo già ammazzati di bestemmie. Allora, stavolta la puntata l'ho inventata io, però lascio che sia Simone a spiegarla perché lui ha fatto suo questo tema. però... questo tema è, mi appartiene da, dal profondo del cuore. Spieghiamo però una cosa subito al volo ai ragazzi. Come l'altra volta che abbiamo fatto il primo test di diretta, e è venuto meglio chiaramente di questo, che in realtà è una prima diretta semi-ufficiale. Dopo 40 minuti questa diretta si interrompe perché noi siamo poveri e non possiamo pagare ancora delle dirette conseguenti. Dillo in una parola sola, pezzenti. Pezzenti, esatto. Quindi voi rimanete... No, siamo morti in culo. Diciamo le cose... Questo è un podcast che non ha filtri, soprattutto perché non ce ne frega un cazzo di andare PG-13, per cui vaffanculo, siamo morti in culo. Ecco, ok, siamo morti in culo e quindi praticamente abbiamo questo problema, e rimanete nei social perché vi daremo il link per i successivi 45 minuti. Sì, tra l'altro c'è gente che lo fa per radio queste cose, perché non dovremmo farlo noi? Esatto, però no, quelle erano 5 ore. 5 ore. Vabbè. E se tu capitavi, facevi la diretta nella metà di queste 5 ore, è calla che comunque rispezzavi in due. Comunque, il titolo dell'episodio, Mario Gualdi, scusa. Marco non so chi sia, comunque Bimbe Minchia a 40 anni. Morti di bestemmie. Allora, perché io sento particolarmente questo? Perché io sono stato circondato per molto tempo da questi soggetti, dalle quali poi ovviamente mi sono allontanato. Posso aprire una parentesina? Perché vai. È di Bimbe Minchia, ma in realtà potrebbe anche essere dedicata, anzi sicuramente sarà dedicata anche ai Bimbi Minchia a 40 anni. Però diciamo che il clou lo toccano le femminucce, insomma. Sì, diciamo che le Bimbe Minchia a 40 anni in quest'era dei social fanno un po' più effetto dei Bimbi Minchia a 40 anni, perché purtroppo sono più clamorose. Esatto, diciamo, ecco. Cioè, nel senso, perché quando tu vedi la donna di, noi poi diciamo 40 anni, ma in realtà la cosa si sviluppa, insomma, dalla mature cougar fino alla older, insomma, diciamo così. La granny. Quando tu vedi, che ne so, la signora di 60 anni che si veste con la magliettina con l'ombelico de fuori, no, allora, che già... tu pensi che ci sia l'ombelico lì, però non lo sai se c'è. In realtà potrebbe essere una grinza. Esatto, è una grinza nella pelle che potrebbe nascondere anche un buco nero dentro. Esatto. Non sappiamo. Magari tu lo conosci dal fatto che ci ha fatto il piercing sopra. Quindi dice, forse quello potrebbe essere l'ombelico. La cosa importante è che la lugine, il cazzillo di lana che si raccolga solo nell'ombelico e non in altre fenditure. Questo non lo so, non lo possiamo sapere, e lo scopriremo solo invecchiando, io direi. Bene, ma per esempio Mario Biggio, tu insomma, anche tu penso hai presente insomma la tipologia, dico. Oh, mi fa veramente piacere che Mario Biggio è con noi. Già è caduto, non siamo neanche cominciati. Infatti, dove è finito? Non so. Non c'è. Però sta scrivendo, ci sta scrivendo lettere di amore e bestemmie. Allora, Mario Gualdi, parla tu, così io intanto aggiungo. Beh, allora, che dire, tutti quanti si saranno prima o poi scontrati con una simpatica bimba minchia quarantenne o giù di lì. Come riconoscere le bimbe minchie quarantenni? Adesso non ho la scaletta davanti, quindi sto improvvisando. Beh, innanzitutto il tratto esistenziale particolare è quello di farsi le foto in posizioni molto audaci, per dire, molto spesso, e con la famosa faccia a duck face, come si dice, che sembra con la bocca a bucio de... a bucio de papera. Che rende il tutto molto ma molto disgustoso. Allora, io ho privatamente condiviso il link di una persona che conosco, che ha diciamo di 15 foto che lei ha postato, in 14 questa ragazza, questa signori donna, ha questa simpatica faccia da succhiatrice di spaghetti, e l'altra invece è semplicemente col culo di fuori. Però per farvi capire, le donne dopo una certa età cominciano un po' a svalvolare, più degli uomini, perché gli uomini svalvolano, però le donne arrivano proprio a toccare a volte il fondo. Quindi caro Mario Raccuglia, sono rimasto solo io adesso. Giustamente, quali sono le tue esperienze personali con le bimbe minchia? Allora, mi fa piacere che siamo entrati direttamente in media res, per cui tutti i ringraziamenti della trasmissione e le cose precedenti le mettiamo in coda, sperando di ricordarci. E la mia esperienza è che essenzialmente ho un social network, anzi ne ho più di uno, ma ho il social network per eccellenza, cioè quello dei quello di tutti quanti, quello dei veri bimbi minchia, cioè Facebook. E mi sono reso conto, qui farò una sorta di grande fratello personale, ma mi piace l'idea di essere un divulgatore di saggezza. Mi sono reso conto che c'era un sacco di gente che inizialmente condivideva cose così perché era simpatico, poi la cosa è sfuggita di mano e la condivisione selvaggia di assolute minchiate aveva preso il sopravvento. E la cosa che più mi lasciava un pochettino perplesso è che fondamentalmente la maggior parte della gente condivideva queste cose senza capire da dove arrivassero. E allora mi sono messo a studiare questi generatori di link di cose belle da vedere, come per esempio questo bellissimo sito che si chiama Il Paradiso dei Link, che ogni 15 minuti, non sto scherzando, ogni 15 minuti pubblica una nuova fotografia con una frase del tipo: per te papà che sei lassù rimarrai sempre nel mio cuore, con una rosa bianca. Il che vuol dire che se qualcuno dei 46.000 e rotte persone, no, anzi 4.600, che segue questo gruppo, vede questa cosa, prima o poi appunto magari la condivide e la manda agli altri, perché appunto ha un papà che è morto, povero lui, mi spiace. E però questa cosa si replica, perché dopo... specifichiamo che il papà è morto dopo che hanno condiviso queste cose, perché si è suicidato. Sì, di bestemmie probabilmente. Esatto. Oppure, una mamma è un supereroe e non la ringraziamo mai abbastanza. Non conosce ferie, relax, lavora 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutto questo per vedere felici la sua famiglia e soprattutto i suoi figli. Condividi, la gente dovrebbe condividere. Il fatto di condividere, però, la cosa che mi fa girare il coglione è che genera fondamentalmente traffico per questi clickbait. Sono fondamentalmente dei micrositi, dei subsiti all'interno di Facebook, dei gruppi che cercano di allargare il più possibile la loro base, riciclando fotografie che trovano altrove. In questo caso c'è una mamma e un bambino che giocano al mare in controluce, con la frasetta che appunto fa sempre molti buoni sentimenti, fa molta Rai 1, diciamo. Per cui il fatto che mi fa incazzare è che questa gente prende queste cose, le fa proprie, come dire, non mi costa niente fare un click, un like, un condividi, faccio mio questo messaggio, però così facendo diventa fondamentalmente seguace di queste pagine, e non si accorgono quando poi queste pagine diventano dei traini per qualcos'altro, perché se uno a un certo punto riesce ad avere, che ne so, 100.000 persone che lo seguono, a questo punto ha una sorta di piccolo conto personale di gente che vedranno, visualizzeranno il proprio contenuto e possono vendere questo contenuto, cosa che lo fanno. Mi ricordo uno dei primissimi gruppi di questo tipo, una primissime pagine che aveva raggiunto 50.000 seguaci pubblicando foto di gattini, e poi nottetempo è diventato un sito politico di Forza Nuova, per cui magicamente un sacco di gente che aveva condiviso foto di gattini era diventata tutti fascisti. No, perché specifichiamo, i gatti sono fascisti. Cioè, oltre a me, ho trovato un gatto comunista. Cioè, i gatti sono fascistissimi. Quindi, in effetti, anche questo è un'attinenza, tutto sommato. Certo, assolutamente. Il cane è un po' più socialista. Che è socialista? Ma il gatto è fascistissimo. Fascistissimo. Sì, però il cane è più qualunquista. Vabbè, io non riesco a far salire, a far tornare il nostro ospite Mario Biggio, non so in che maniera poter fare, insomma, in tutte le maniere che sto tentando. Dovremmo cercare di rifare tutto da capo, probabilmente, sì, forse lo deve chiamare forse Alex. Forse lo deve far riaggiungere Alex, probabilmente si deve fare il più. Io non so, mi sa che non sono amico di Brenda Maggio. Ma chi, guarda, sei giustificato comunque. Biggio, se ci senti, allora no, cerca Alex Arcuglia, cerca... Alex Raccuglia. Questo è il bello della diretta, ma sì, ma chi se ne frega, tanto alla fine tagliamo tutto, perché la diretta non ha... Io sono sempre convinto che la diretta non serve a niente, serve per tirare un po' di gente, ma tanto poi noi tagliamo e facciamo diventare questa puntata la realtà che è a posteriori. Molto semplice. Comunque, mentre che Alex cerca di risolvere questo problema, noi andiamo avanti. Abbiamo cercato di descrivere praticamente quello che è questo soggetto, a volte anche un po' ripugnante, diciamoci la verità. A volte a tratti ci può anche avere una sua sensualità, però poi alla fine, in questa era un po' dei social, dove praticamente le ragazzine tendono tutte ad assomigliarsi, non so se c'avete tutte con le bocche, come diceva lui, a bucio de papera, con le sopracciglia super sottili, con sto trucco, sempre con i capelli tutti uguali. No? Tutti uguali, e allora, vede una di 50 anni così, è chiaro che diventa un mascherone, diventa una cosa un po' ridicola, so, e quindi deve morire di bestemmie. Diciamo che questa idea ci è venuta Anzi, è venuta a qualcuno di noi guardando il Festival di Sanremo. In particolare, esatto, sì. Ci sta un fenomeno, chiaramente, perché sono stati due fenomeni. Anche se poi c'eravamo già un po' più abituati, insomma, era una cosa che di cui avremmo comunque voluto parlare. E quali erano questi due? Beh, c'era la Patti. Patti Pravo, Patti, che praticamente non ce la fa più neanche a cantare. No. Quello è altro essere un mascherone. No, quello è Boturino, cioè Boturino le paralizza la faccia. No, è abbastanza ripugnante, insomma. E poi ci stava la stilista lì, così. La Donatella. Donatella Versace. Che so, pezzi di plastica, fondamentalmente. Beh, diciamo che fa un po' un complimento alla plastica, comunque. Ma sono arrivati oltre. Io ho postato qualche tempo fa la foto di qualcuno che ha preso la Donatella e l'ha trasformata con un leggerissimo tocco di Photoshop in Eddie degli Iron Maiden. Quindi considerate un po' questa. Non ricordate il personaggetto, quello degli lo zombie? Come si chiama? Eddie. E quindi, insomma, da questo c'è poi scatenato la pazzia. Abbiamo creato questa puntata, insomma. Però io penso che. Poi ce ne sono diverse categorie. Esatto, infatti adesso poi le andiamo un po' un attimo a vincere, perché poi il discorso è che i social hanno peggiorato questa questione, perché noi in realtà in Morti di Bestemmie abbiamo già capito che i social sono aggregatori e quindi aggregano il male. Il bene e il male, ovviamente. In generale aggregano il male, mentre sento suoni di ogni genere. Non sappiamo neanche più se siamo in diretta o no, cioè ormai è colpa di Biggio che fa tutto il fiego. Io sono qui a Zurigo, porco zio. Sono a Svizzera, c'ho la DSL. C'ho 250 megabit al secondo. Ma adesso spieghiamo ai nostri amici perché noi non facciamo le dirette fino a... In realtà diciamo, perché in anni non avete quasi mai fatto le dirette? Perché non siamo capaci, questo è, no. Perché per fare le dirette ci vuole la conoscenza. C'è anche All Games Italia, addirittura, oltre che ci sta bestemmiando. Ma All Games, esatto. Italia, già che sei lì, ma la foto di Gwen non me la volete dare oppure no? Brutti stronzi, allora, diciamolo pubblicamente nella puntata, che probabilmente non è adatta perché insomma non vogliamo assolutamente sostenere, ma insomma qui c'è gente che reclama la foto di Gwen, questa è una cosa importante. Comunque, vabbè, che facciamo? Biggio c'è o non c'è? Ma sti cazzi, andiamo avanti a parlare, ma poi parlare, anzi gli facciamo recuperare tutti in una botta sola alla fine. Gli facciamo tutte le domande insieme a Biggio. Assolutamente. Bene, allora, caro Mario Gualdi. Dica Mario Vizzi. Questa bimba minchia a 40 anni e anche a 50 anni, 60 e 70 anni, da dove viene poi fondamentalmente? Cioè, quando è che secondo te è nato questo fenomeno e dove, come può evolvere, dove può arrivare? Perché insomma abbiamo visto cose ridicole. Io poi posso raccontare, che so, al McDonald's qualche anno fa, madre e figlia vestite identiche, con la figlia rifatta, con le tette rifatte come la madre, perché la figlia deve essere uguale alla madre, non può essere che la figlia è più bella o più brutta. Capisci? Cioè, ho visto delle cose veramente raccapriccianti. Oppure, tornando un po' alla televisione, come abbiamo visto l'altra volta, che ne so, mamme che si fanno super belle per portare le figlie a fare le modelle anche a 10 anni, 12 anni, bambine che si dissociano dalle loro stesse personalità. Insomma, l'abbiamo detto prima, cosa ha creato questo movimento di bimbiminchismo? Secondo me, Facebook gli ha dato una bella botta, ma in generale, tutto quanto quello che è social, perché poi alla fine, quando tu cominci a mettere una stranezza insieme ad un'altra stranezza e poi ad un'altra stranezza ancora, cominciano a formarsi i gruppi, cominciano le cose che a noi sembravano strane, e effettivamente sono strane, perché magari ne vedevamo una ogni milione, quando le cominciamo a vedere 100, 200, 300 mila, chi fa queste cose, chi si comporta in un determinato modo, che diciamo potrebbe essere alquanto fuori luogo, poi comincia a credere che sia normale, che sia giusto, e di conseguenza cominciamo proprio a proliferare dappertutto, e quindi cominciamo a vedere, come diceva Mario Pizzi, le mamme che proprio non lasciano andare la presa, cioè non cominciano a rendersi conto. Una cosa molto, molto triste. Come sta andando la situazione qua? Perché beh, abbastanza... io ti vedo preoccupato, io, caro Mario. Sì. Io vedo scritte tipo rimorti o cose del genere. Rimorti di remix. Rimorti no, di bestemmia. Stiamo andando benissimo. Stiamo andando benissimo. Ah, quindi c'è Alex. Allora, non fosse è Alex, è Mario Guale. Mario Raccuglia. Mario Raccuglia, invece, secondo te dove andrà a finire questo fenomeno mostruoso? Allora... questo qualunquismo generazionale mi spaventano un po'. Madonna, come parti proprio brutto. Sì, sì, sì, oggi parto veramente esatto, brutto. Esatto. Il qualunquismo generazionale, aspetta che cerchiamo di aggiungere quel cagone di Biggio, anche se appena lo aggiungerò cadrà tutto, aggiungi persone. Che tra l'altro la ha aggiornato Skype. Hai aggiornato Skype, bravo, si fa esattamente la trasmissione. Perché non lo aggiornava dal 2012. Lo devi fare come noi, lo devi installare ex novo 5 minuti prima di fare la trasmissione. Sì, però noi non ci abbiamo avuto l'altra volta nessun problema. Perché era installato, non c'era bisogno di aggiornamenti. Devi farti furbo, caro Mario Biggio. Nel frattempo All Games Italia non ci risponde sulla questione della foto di... Allora, fa il vago. Ora va, dice Carmine Puccio Console, che salutiamo. Vabbè, Mario, console. Dai, continua Mario. Allora, il problema è che mentre anni fa, prima di internet, c'era una sorta di selezione naturale, praticamente chi era troppo coglione per vivere a un certo punto moriva, adesso no, la tecnologia ha fatto sì che chi si può permettere di salvarsi, non intellettualmente, ma in qualsiasi modo, anche scusa Alex, però è la tecnologia in generale che è la ma scienza, anche la medicina è la medicina che permette anche sì, queste sì, cose sì, eh? Sì, assolutamente, ma io stavo parlando dal punto di vista intellettuale. La medicina, cioè, non, nel senso, se sei scemo non ti fa niente. Internet, se sei scemo, ti può anche premiare, ti dà quel qualcosa in più che ti fa quasi emergere. Allora, intanto All Games Italia ci dice che sinceramente è un segreto anche per loro l'aspetto di... quindi c'è cioè il fatto che voi potreste vivere a fianco a Gwen e non saperlo. E non saperlo. Potrebbe essere la tua vicina di casa. Non Alex. È più intrigante la cosa. Questo è l'anti bimbo minchismo, cioè nel senso io non ci sono, non vi faccio vedere chi sono. Bellissimo, brava, interessante. Brava. Infatti, per cui Gwen ha il cazzo, diciamocelo. No, vi dico la verità, dissociati. Gwen ha il pene. Finché vabbè, non però, vediamo le tette in gamba di Gwen, è cazzo, Gwen giustamente è vero, però dai, sono tutto ma no, ma no, no, io mi dissocio da questa cosa, scusate. Oh, ma mi fai il democristiano pure te? Si scherza, Gwen, non so neanche come ti chiami. Si scherza, mamma sì, mia. Sì, pelosa, si scherza, dai. È vero, Gwen, si scherza. Che due coglioni. Sono dai. Collaboratori, insomma. Ma non si può prendere sul serio una trasmissione che si chiama Morti di Bestemmi, in cui tutti si chiamano Mario, cioè, anziché cambiano farlo. Nome ogni trasmissione, dai. Che però, se ci fa vedere le zizze, va bene. Che non riesce a far parlare Mario Biggio. Tra l'altro, non riusciamo neanche a fare la prima volta che abbiamo detto: vabbè, cioè abbiamo l'ospite, è andato tutto a puttane. Ma pure la trasmissione stessa sta andando in realtà a puttane, sta andando sì, a puttane, sì. Cioè, sì, andando veramente alla cazzo. Sì, il problema è sempre partire, poi dove si va e dove ci porta il vento, non siamo così modificati. Cioè, un paio di persone mi hanno detto: oh, ma fate la diretta nello stesso momento di Digitalia. Ho detto: ma non abbiamo lo stesso pubblico di Digitalia, non vogliamo essere come Digitalia. Che cazzo ce ne fotte di Digitalia? Cioè, nel senso, massimo rispetto per Digitalia, ma non ce ne frega un cazzo. Per cui, massimo, ma poi sì, Digitalia può avere lo stesso, cioè, può... ma no, assolutamente. Assolutamente. Secondo me, chi ascolta Digitalia neanche lo sa che esiste Morti di Bestemmie, anche giustamente. Cioè io se fossi Digitalia non mi conoscerei, quindi vederei anche di conoscermi, insomma. Come, anche perché... il problema è che dovremmo uccidere Stefano. Se buttassimo giù la connessione e la rifacessimo un secondo, ci provo? Per me va bene, okay. Però io non so il pubblico, cioè, ma sti cazzi del pubblico, tanto pensate a Gwen nuda, dai, via, no, cazzo. Aggiungi. Ci sei? Oh, ti sento bassissimo. Alza la voce, alza il volume. Oh, adesso ti sento, finalmente. Però adesso non riuscirò a beccare dentro. Tutti insieme contemporaneamente. Adesso Biggio deve rispondere a 6-7 domande contemporaneamente. Rispondi alle domande senza neanche sapere le domande. Dai, tu spara delle cose. Io però, aspetta, prima volta, di rispondere alle domande, perdonami, scusa, sì. Scusa. Cioè, un attimo, dobbiamo dare spazio anche al nostro pubblico. Danilo Gardino è bellissimo. No, Danilo Giardino dice: povera Gwen, però voglio vederla pure io, Gwen. E soprattutto dice: che cazzo è digitale? Che cazzo è digitale? Visto, questa è la riprova che noi non abbiamo lo stesso pubblico, è normale, quindi non vi preoccupate. Poi Sambu scommette che Gwen sta sentendo un pizzicorino adesso. Ah, ecco, giustamente Organizzi Italia dice: sono quelli che ti fanno sentire in colpa se non li finanzi. C'ha ragione, c'ha ragione. Prego, Mario Biggio. E non c'è più un'altra volta. Sono, guarda una cosa. Ah, ok. Fa le finte lui. Non lo so, parlaci della tua esperienza con le bimbe. Descrivici le tue bimbe minchia a 40 anni, secondo te da dove provengono, dove vanno e soprattutto quali sono i loro comportamenti caratteristici, insomma. Allora, io non so cosa vi siate detti voi prima perché ero occupato a morire di bestemmie. Ma non lo sappiamo esatto. Neanche noi, per cui vai tranquillo. Benissimo, ma allora io non ho un'esperienza esagerata perché per motivi di età, perché non ho ancora raggiunto l'età, la maggiore età, specifichiamo, però da quello che ho visto direttamente o indirettamente mi sembrano persone a cui internet è esploso in faccia, diciamo, quindi... Come dire, e questo è il problema, quando ti esplode in faccia l'internet e non lo schizzo. Il cum shot, signori, il cum shot, tutta la vita il cum shot di internet. Quando internet ti fa un cif è la fine. I fix chen chen, signori. Comunque, e quindi persone appunto abituate a, non lo so, a malapena usare il cellulare sono ritrovati con dei mezzi semplici per poter comunicare col prossimo e per esprimere male i propri sentimenti, quindi confusi soprattutto. Persone confuse e felici in compenso, da quello che hanno notato. Ma anche mie coetanee, ci metterei anche le trentenni oltre che... Sì, no, il bimbo minchia è uno stato dello spirito, non è che se sei bambino, no, sei bimbo minchia, è un esatto. Sì. Comunque Carmine dice che lui il senso di colpa l'ha perso nel 96, presuppongo con la verginità anche. Probabilmente, aveva 8 anni tra l'altro. 96. E poi vabbè, scrive altre cose che non vuoi leggere. No, diciamo, le nostre teleascoltatori devono saperlo perché vi fa ridere. Carmine Puccio Console propone il BookH via TCP/IP. Ok, fantastico. Però forse se anche, guarda. Comunque la cosa veramente affascinante è che non è, adesso, ritorniamo un attimo con l'aspetto antropologico della questione, non è soltanto internet, perché internet, come ha detto Alex, sì, non c'è Alex, Mario. Cioè Mario Raccuglia prima giustamente dice no, però cioè internet è un aggregatore, cioè quello che fa da cassa di risonanza, no? Esatto, ma non è la miccia, in realtà è questa società veramente dei media, dei tronisti, dell'apparire, sì, apparire. Diciamo del... Come si chiama? Dei reality show, è proprio dell'apparire, bravo, che oramai non c'è più la sostanza. E infatti, non a caso, se vai a vedere anche l'estetica delle ragazzine, quando esisteva Netlog, prima ancora di Facebook, roba del genere, cioè c'è stata tutta una fase dove praticamente tu entravi in questi social e c'erano tutte le ragazzine da 14 anni a 60 anni che ci avevano la stessa foto, che ci avevano lo stesso trucco, che c'erano gli stessi capelli e che si comportavano nella stessa maniera. Però fino a che c'hai 14 anni, la cosa c'ha un senso. Quando comincia a avere 40, 50 anni comincia a diventare un po' un problema. Io vi racconto anche una mia esperienza. Proprio sempre sui social c'erano tutte queste madri di famiglia che ovviamente avevano la loro esistenza in crisi e che internet non ha fatto nient'altro che amplificare poi questa crisi, che ti scrivono le poesie. A un certo punto si sono ritrovate 10, 20, 100, 40 donne in crisi. Era un casino. Cioè, ti scrivono le poesie, ti dicevano: io quando faccio l'amore sono una farfalla. Signore, che cazzo vuoi? Ma signor, io posso, ma capito? Cioè, insomma, era un po' così il discorso, capito? E diventava imbarazzante. Fino a che non è arrivata una e mi dice: ma ha scritto una poesia erotica una volta, e poi cioè, sotto c'aveva la croce capovolta, che era una satanista. Mi ha fatto vedere le foto sue dei suoi due figli con questi crocifissi capovolti. Era una cosa. Il problema è che loro erano sul crocifisso capovolti. No, erano sì, tipo la specie di satanista, era una mezza matta. Cioè, perché poi internet poi ovviamente poi aggrega tutto, accazzabuglia tutto, cioè non è che fa più distinzione. Cioè, da lì punto... che poi vengono le galassie di luce. Esatto, dato, ritorniamo ricollegati un po' la scorsa settimana, insomma. Biggio, scusa, ti ho interrotto. No, ma era avevo più o meno concluso. Quindi le, sì. Allora, che cazzo l'abbiamo chiamato a fare se non dici un cazzo? Ma quindi non c'è un cazzo da dire, Bigio. No, concluso riguardo a questa domanda, questa questione, cioè questa la domanda in piccolo, diciamo. Ma ce ne sono altre sei, quindi. Ma tu, allora raccontaci delle, ovviamente senza fare nomi e cognomi. Beh, vabbè, quello è raccontato. E né situazioni particolarmente specifiche, però raccontaci un po' a grandi linee, magari le tue esperienze, quali hai conosciuto, quali sono particolarmente ridicole, che tipo di situazione magari imbarazzante ti sei trovato? Ma allora, il mio focus ovviamente è, riguarda più che altro, notato, appunto, che poi passo per snob, però ho notato, vai fottitene, no, meglio, ma tu meglio sei un po' snob, però. Meglio snob che sbob, quindi ricordatelo. No vabbè, se vado libero, ragazzi, lo sapete che mi abbandono a bassezze degne di. E io ho notato che tendenzialmente chi vive in periferia, tipo Pizzi, no, diciamo, non in periferia, scusa, in provincia, tipo Pizzi, ecco, ci tenevo a dire tipo Pizzi. E... ma tu abiti nella periferia del mondo, però, cioè, nel senso, stai nel paese più inutile della storia. Certo, sono solo tutti i soldi del mondo qui per il resto. E a parte, vabbè, anche io ho notato che in linea di massima, tipo qua ultimamente c'è una specie di mania per gli stivali, che sembra che sia appena sceso da cavallo e stai andando per strada. C'è sotto la merda? Cavallo. Come? C'è sotto la merda? C'è, no, gli stivali con, no, sotto la merda già. Ah, no, sono, okay, gli stivali da cavallerizzo. O da cavalierizza in questo caso, perché è una prerogativa, almeno io l'ho visto per fortuna solo nelle donne per adesso, e sono, devo dire, davvero brutti, anche perché sono esattamente da cavalierizzo o cavalierizza. Io mi chiedo, in una città come Zurigo, che cazzo ci stanno a fare degli stivali per andare a cavallo, sinceramente. Comunque, a parte questo, ho notato più che altro per quanto riguarda le persone della, provenienti dalla mia isola, che tendenzialmente chi vive nei piccoli centri abitati più o meno limitrofi alle città, per quanto possa avere, essere una persona a suo modo intelligente, ha qualche problema con, per quanto riguarda la gestione della propria emotività nell'internet. Quindi ti ritrovi con io alcune persone le ho dovute bloccare, non bloccare, come dire, nascondere le notifiche. Però te ne mandavi i crocifissi al contrario. Purtroppo no. Però ti arrivavano, sai, quelle cose tipo le frasi, quelle con gli orsetti, tutte quelle scritte glitter. Perché ieri ho visto una stella e questa portava il nome di mio figlio morto, bastardo, eccetera. No, forse la fine non c'è. Condividi anche tu se è un figlio morto, bastardo. Esatto. Morto, quelle... bastardo. Ho quelle puttanate incredibili, tipo, lui è un bambino dell'Africa, se ci tieni a lui condividi, esatto. Rincoglionito. No, questo non è vero, ecco, ad esempio, questo l'ho visto per la maggior parte da persone che vengono da Cagliari, che in teoria dovrebbe essere una città quasi civilizzata. Però quanto pare non basta, cioè. No, quanto pare non basta, che no, si dalla città. Lascia perdere internet, io voglio proprio le tue esperienze dal vivo, proprio epidermiche, quelle che... Ma poi vi racconto con la mia cliente. Appunto, dai, perché poi dopo... Andiamo un po' sul riguardano tendenzialmente il vestiario clonato, come lo chiamo, i cloni venuti dallo spazio, che è una cosa anche maschile in questo caso, perché si parte con le capigliature della prima guerra mondiale, quelle dei soldati, no, che vanno molto adesso, cioè... corti ai lati, lunghi sopra, col ciuffo, eccetera eccetera, da parte dal punto di vista degli uomini, che non hanno età, queste cose ho notato, che vanno dai 15 ai 50 anni, se hanno i capelli, ovviamente. Vabbè, io ho fatto il contratto sabato con una ragazza che aveva i capelli esattamente come te lo dici tu. Ok. Quindi, però dell'85, quindi insomma... Non ci facevi con la ragazza dell'85 in giro, che io ho 86 anni, no, non è bello. Berlusconi l'ha fatto per decenni, potrei farlo anche io. No, non ho una cliente, ci ho solo fatto un contratto, non ti preoccupare, non è tutto a posto. Ah, vabbè, si chiama, ecco, contratto adesso, bravo. Si chiama un contratto, perché certo, lui fa anche il prostituto, no, lui è un prostituto, no? Io sono un gigoloso, il mignotto al dancing delle pulci. Sì. E però anche devo dire che anche dal punto di vista femminile, cioè, cosa ne so, tutte quelle idiote con i capelli rasati ai lati, sono tutte clonate, cioè sembra che se fai parte di una certa categoria, allora devi, hai raggiunto una certa età, devi essere, cioè passi dei 15 anni dove sei uguale a tutti, come stai facendo Pizzi, poi di nuovo torni 30-40 e devi di nuovo essere uguale a tutti, e quindi le vedi in gruppo con le stesse scarpe, lo stesso vestito, lo stesso taglio di capelli, la stessa borsa, eccetera eccetera, in qualunque parte del mondo. Questo è, c'è poco da fare, a quanto ho visto, che vanno lì a fare le oche giulive. Ma le migliori le ho viste domenica salendo in montagna. Queste qui erano vestite, cioè tu immagina la gente in una montagna svizzera piena di neve, ok? Nella quale c'era un, c'è anzi un hotel nel picco della montagna che si poteva raggiungere tranquillamente con una macchinetta di quelle elettriche per i tizi dell'hotel, oppure a piedi, ok? Queste qui, per vedersi il panorama, sono andate a piedi. Il fatto sta che avevano tre trolley, i tacchi e quant'altro, mentre c'era la gente con le scarpe da trekking e baccucate, cioè, io dico, ma... ora hai raggiunto una certa età, che problemi mentali hai, cioè che ti portano a non riuscire a concepire il fatto che forse quello non è nell'abbigliamento, nella calzatura, nel momento giusto per fare queste belle cose, e soprattutto fare una salire una montagna con dei trolley non è proprio da persona furba. Quindi io mi chiedo, che ne sai, magari si stavano allenando, tanto di cappello. Tanto di cappello, non lo so, cappello, loro, tanto di cappello, no? Di cappello, è il famoso gag, glutei addominali gambe. No, gag quello, è quello... il riflesso laringofaringeo quando ingoi, penso. E ha sempre parati bucca che è. Ce l'abbiamo già in testa oggi. Cosa porta queste persone, nonostante la raggiunta maggiore età, ad essere ancora rincoglionite? Io mi chiedo, è perché non si sterilizzano? No, ma quello, il problema, quello aspetta, grosso problema, sì. Il problema, cioè, aspetta, non è che cosa li porta ad essere rincoglioniti, cioè, in realtà si rincoglioniscono. Cioè, io, vabbè, purtroppo c'è un problema in questo episodio, che ci sono cose che io non posso raccontare. Però tu raccontare lo stesso. Però, fai nome, dai. Non li vuoi raccontare uguale, perché ci sono alcuni riferimenti che sono troppo chiari per persone anche che conosciamo, insomma, che purtroppo è. Però, insomma, ci sono momenti in cui le persone... allora, il problema di fondo è che tante volte quando si parla delle persone che si separano, delle donne che vanno in giro nei gruppi, fanno le matte, vanno a ballare a salsa piano i cazzi, cioè non è che è un fenomeno attuale, cioè nel senso è un fenomeno attuale perché oggi, diciamo, la cosa è sdoganata, esatto. Ma questa cosa sarebbe potuta succedere anche nelle nostre famiglie, cioè nel senso anche nelle famiglie degli anni 50, voglio dire. Il problema è che chiaramente non c'erano né i mezzi né le possibilità per le donne, però quello che tu vedi che a un certo punto queste donne abbagliate da come posso dire, da stimoli chiaramente che arrivano dall'esterno e che prima non c'erano così massificati, a un certo punto gli parte l'ultimo scampolo d'ormone che gli è rimasto e lì impazziscono, e poi ovviamente vanno dietro all'imitazione praticamente di modelli che vedono costantemente. Io l'ho detto prima inizio puntata, non so neanche se eravamo in onda o no, la mamma e la figlia al McDonald's che erano vestite uguali, pettinati uguali, con la mamma col seno rifatto e la figlia col seno rifatto, e si vede poi quando il seno è rifatto. Ma Cristo, perché... ma quanti anni aveva? Cioè, aveva la figlia, non la madre. La figlia, cioè, se aveva 18 anni, era una puzza, cioè, secondo me ce l'aveva anche di meno, cioè, nel senso. Capito? Cioè, ma guarda che a Roma sì, se l'hanno fatta insieme pure. Se ne volesse pure, no? Gliel'ha regalato per i 18 anni, capito? Cioè, è capace anche benissimo. Così. 18 suoi e 40 della mamma. 40 sì, sono tipo quelle cose, i cartelloni, quelle cose che fanno a Napoli. Però io so benissimo. Ah, sì, i 18 anni. Quelle cose orribili, madonna. Quelle cose pacchiane che Raccuglia fa tutti i giorni, insomma. ragazzi, devo portare a casa i soldi del mutuo pure io, Cioè nel senso che li rubi, esatto, a un'anziana che li stanno andando a passare, esatto. Sì. Però, e qui finisco, cioè subiscono tutti questi stimoli, è chiaro che queste scappano di casa e vanno a trombare. E poi la cosa bella è quello che non capiscono ancora oggi, dopo 20 anni di internet, perché diciamo che mo internet, insomma, diciamo che ha avuto una certa diffusione negli ultimi 10 anni, dai, 10 a 15 anni anche volendo, cioè voglio dire, lo sai che quello che sta dall'altra parte e ti scrive frasi auliche che chissà da dove in realtà te si vuole solo scopà, ma anche tu te lo vuoi solo scopà perché ti sei idealizzato capito, il soggetto, il personaggio, roba del genere, però ovviamente tu sei donna e moralmente non puoi dire che vai lì a scopare, vai lì perché t'ha scritto le poesie e la scappi di casa, capito? Oppure si trasformano, diventano tutte buone, tutte fighe, tutte carucce. Io c'avevo... Anche su questo poi ti devo tipo okay. smentire, no, però vabbè. No, vabbè, però insomma, questa è la mia opinione, infatti, dico, però in generale ci sono... Allora vai, caro... Allora, purtroppo non è... Sì, ma innanzitutto Carmine delle console, che dice che nel trolley molto probabilmente ci portavano i cromosomi in più del loro patrimonio genetico, quindi è molto probabile. Poi Giovanni Tosto, o Mario Tosto, potrebbe essere Mario Tosto, che resto... come ho detto prima è un duro. È un duro, infatti. Del resto, se vedono al cinema Bryce Dallas Howard, protagonista di Jurassic World, che gira per la giungla inseguita dai dinosauri con il tacco 10. Questo è il problema. Infatti la sostanza è quella, cioè da lì chiaramente poi si scatena un po' tutto. Comunque, vabbè, ma vi ricordate, scusa, il dicendo... periodo del sì. sabò, della scarpa orribile, che io mi chiedo, allora, la usi per attrarre gli uomini? Perché agli uomini non gliene, cioè, o non gliene fotte proprio un cazzo, o lo trovano brutto, quindi puoi scegliere tra le due possibilità. Fatto sta che hai speso un sacco di soldi per una cagata. E allora lo... Ma fai per te, però, stessa? No, perché ti stanno facendo credere di farlo per te stessa, perché così... Ma te sì, lo compri. Ma questo è un po' un problema, come la donna che aspira alla magritudine quasi veterotrasparente, voglio dire, no? Nel senso, in realtà, voglio dire, io penso che a un uomo, boh, a parte... insomma Mario Raccuglia, che ha tutti i gusti un po' suoi, che lui gli piacciono senza le sise. No, non lo so, non perché sto di sta cosa, no, però che non sono fondamentale, per me il culo vince sulla sua testa, esatto. Di gusti, cioè... esatto, però voglio dire, cioè, comunque, cioè, se la donna senza forme è terrificante, no? Nel senso, però, cioè, ho visto anche casi estremi, no? Nel senso che devono essere longilinee per stare dentro sti tubetti, capito? Con l'ombelico de fuori, e questa è la cosa che loro conta, capito? Quindi per loro soffica. Poi è vero pure, e qui diciamocelo, che comunque una donna a 45 anni, a 50 anni, se fa il selfie con le sise strizzate e la bocca a culo di papera, e tutti sotto a scrivere quanto sei bella, ah, fiore del destino, ah, luce che tramonta nel cazzo, perché poi beh, la luce potrebbe tramontare da un'altra parte, nel culo. Comunque non so, io sono meridiana, capito, esatto, okay. Ma io sono raccontato meridiana, mi piace. Non so se volete salutiamo meridiana. La nostra amica Gaetanal. Gaetanal, ciao Gaetanal. E no, io il suo ragazzo Enrico. Enrico il figo. Enrico il figo, esatto. Stavo raccontando di... Allora, innanzitutto devo fare una precisazione, che probabilmente negli anni 50-60 c'era anche una mentalità diversa, quindi tutto quello che stanno facendo adesso non l'avrebbero fatto, perché per loro era... magari lo avrebbero voluto fare, però era nella loro testa qualcosa di completamente fuori da quello che era la cioè, no, certo. Io non lo posso fare, cioè, da pazzi, sarebbe da pazzi. Ma se c'è 40 anni oggi, perché non è un limite culturale negli anni 50-60 alla fine, quindi non c'è neanche quella scusante. Sei 40 anni oggi, cioè tipo oggi fai 40 anni, ok? Tra cosa, infatti quello stavo dicendo. Ah, dicevi 40 poi, anni per chi è nato volevo... nel primo dopoguerra. Certo, io negli anni 50 stavo dicendo, negli anni 50-60. Okay. Che aveva quell'età, 40, 30, 40 anni, a parte che 40 anni negli anni 50 sono diversi da quelli di oggi, anche fisicamente. Sei nato lì negli anni 80, la coca, dai, Berlusconi, soldi, altre cose, sdoganato. No, io ho praticamente... È sempre la stessa pippa. Una collega. Non tornano più tutti gli ascoltatori dei miei, non torneranno... Ci siamo persi tutti. Lo fanno bene, ma c'è, non colpa di Berlusconi anche questo. Esatto, della coca. La coca, cioè, sono altre cose. No, dicevo, io ho questa collega che praticamente ha fatto un corso di unghie, praticamente per fare le unghie. Il corso di unghie. E c'è chi fa il corso di unghie. Poi se lo passi, fa anche il corso di unghie sulla lavagna. Quello dopo. Però prima devi fare le extension delle unghie, ovviamente. No, e mi raccontava che praticamente lei, quando andava a fare queste praticamente il corso di unghie, quindi queste cose in cui loro facevano lì, si mettevano a fare le unghie tra di loro, e poi mi tornava in ufficio e mi diceva: cioè, tu non puoi capire che bestie che so queste donne, le 40-50 anni, separate, divorziate, che non è che mettevano, che tra di loro si parlano normalmente, non è che se fanno cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic bestie che sono. Cioè, c'è presente voi quando parlate di donne? Ecco, voi siete dei santi. Ma del tipo, ah, ieri sono stato con uno che manco, però ma non gli si addrizzava, questo faceva tutto il figo, però non gli reggeva la pompa, pietra nella pasticca. Cioè, vabbè, questo è pure poco. Ma c'è anche le peggio, insomma, quindi oggi siamo proprio al rovesciamento quasi delle parti, quindi sono le donne. Beh, che è anche quella tipologia di persona che apprezza quel tipo di estetica da unghia, stiletto, lunga, che serve a scaccolarti i polmoni, penso. Serve per toglierti bene la lugine dall'ombelico. Sì, però che passando dal naso, ovviamente. Passando dal naso. Quindi secondo me di base non è che parti bene, ecco, se apprezzi quel tipo di cose lì, no, non tanto chi le fa quanto chi paga per farsene fare. L'importante è non passare dall'anno, perché diventa più. Poi c'ho questa cliente, allora vediamo di questa cliente che ancora non ci siamo arrivati alla cliente. Ah, però se vuoi posticipiamo dopo la trasmissione. No, vai. Ah, no, ok. No, perché è ripartito con la cliente e poi insomma. No, questa cliente qui praticamente, allora, c'ha una quarantina d'anni, il fisico non è più quello di una volta, diciamo, ok, quindi sta cominciando un po' a sbragarsi. Questa cliente vive in un appartamento arancione, giallo, un po' colorato, completamente tappezzato dei pupazzi di gatti, pantere, tigri di tutte le dimensioni. C'ha copricoperta ghepardato, divano col copridivano ghepardato. Quindi immaginate il soggetto, tutte le foto a culo de papera, qualsiasi. E poi c'ha uno spogliatoio dove ovviamente c'è la cabina armadio, con due foto, una in bianco e nero e una a colori identiche, con lei in mutande reggiseno sdraiata sul letto a culo de fuori. Che voglio dire, me la fai vedere a me, che faccio vedere la casa, che venga a vedere la casa pure, ma Cristo di Dio, quando venga a portare i clienti per fargli vedere casa, almeno chiudila. O se uno lascia la luce spenta dentro la cabina armadio per non far vedere le foto, almeno non andare lì e aprire la luce per far vedere meglio, insomma. Cioè, ma non hai capito, cioè, fa parte del gioco, cioè, appaio quindi sono. Se, ma che mi appaio rendo conto di essere molto giudicato. Ma loro lo vedono, cioè, sta cosa del puttanone lo identifichiamo noi, per loro è l'aspirazione, è quella. Chiaramente poi, allora, questo disperato tentativo di diventare qualcosa che non sei, chiaramente diventa grottesco, ma lo vediamo noi, loro non lo vedono. Loro se vedono le foto che oggi abbiamo postato una marea di roba, cioè c'è Mario Raccuglia che ha postato pure quelle che si fanno le foto sullo specchio con l'iPad, roba del genere. Cioè, è lì, capito, che è indicativo, no? Cioè, tu vedi sta gente che tu dici, vabbè, detto di te, magari una scorticata, qualcuno gliela darà pure, perché per carità di Dio. No? Voglia. Capito, c'è sta gente che mi piacciono le trucidone, come le chiama lui, che è anche un vostro conterrone. Che poi trucidone, a questo punto io inserirei anche un'ennesima categoria, che non è quella che ho già inserito, ma è la chicchetta panterona. La chicchetta panterona è praticamente la bimba minchia dei 40-50 anni, trucida, bora, che sta sempre su WhatsApp, e che come passa lei praticamente c'è solo la musichetta, il suono di WhatsApp. E lei, capito, che si mandano i messaggi. Oh, allora quando è che si vedemo? Sì, Giorfio, ma tanto io sono libera. È infine la mignotta. Ma che fai? Non mi viene a sono quelle che usano WhatsApp mandandosi messaggi vocali e ascoltandoli. Attenzione, è uscito fuori Cerebro. È Logan, da quello è Logan. Logan. Cerebro Radio addirittura, ragazzi, si sta ascoltando. Salutiamo gli amici. Il caro vecchio Logan. Un uomo glabro lo definirei. Comunque, la chicchetta panterona, mo io non sì. posso. Non ma chi posso... è quella genitrice che definiva merda i propri figli? Chi era la genitrice che definiva? Aspetta. Ce lo stavano a raccontare ieri sera. Sì, vabbè. Comunque, io non voglio, perché non posso sbilanciarmi, tanto che cazzo ci ascolti, io ce n'ho una qua vicino, cioè, nel senso che io da quando è venuta qui non sapete che cosa non ho sentito, cioè, perché poi ovviamente la a differenza gatto... tra... No, sto parlando delle chicchette panterone, non so se avete mai sentito quella canzone, quella mi chiamo Chicchetta Panterona, e poi lui va, gli va sotto casa, capito? La guarda da, dal balcone, perché è andato lì che si sono chattati, lui è venuto lì in grifo, si fa tutto raccordo onorare per andare da lei, quando arriva sotto casa sa, guarda, ma che sei quel coso sul balcone, mentre che scappa, capito? E lei ci rimane male perché dice, ma come, ammazza, e poi sei proprio un frocio perché è colpa sua, capito, che lui se n'è andato, no? Che tu sei un attrezzo, un bidone della mannezza, un attrezzo inguardabile, tra l'altro vestito da mascherone, perché ovviamente, cioè, non è che tu poi dopo valorizzi, dopo svalorizzi completamente a quel punto. No, io mi chiedo che problemi hanno le persone che tendenzialmente sono ragazze, tra l'altro, però non solo, che utilizzano il cellulare, cioè che per fare le chiamate, le rare chiamate che fanno quando non sono le note vocali di WhatsApp, le fanno col viva voce in mezzo, cioè tu sei nella metro di Roma, il luogo più silenzioso del mondo, ok, per dire, o in quella di Milano, è uguale, e tu ti metti a parlare col viva voce, col cos'è, e ascolti con l'orecchio. Ma cioè, perché? Che problemi avete? Perché fare, cioè, una io, cosa così? Francamente non me lo sono chiesto, ma io ho anche paura di darmi una risposta. Per cui io lascio, no, ma... le cose così come sono. Sono domande retoriche, perché cioè io mi chiedo. No, ma la cosa bella è chi usa il viva voce. Io una volta a Milano ho vista una, ragazzi, cioè fantastico, questa stava a fare la videochiamata con l'iPad mentre che camminava, poi a un certo punto si è appoggiata al muro, si è messa proprio in posizione, allora capisci, cioè io mi domando, cioè nel senso, ma è veramente così indispensabile dover essere al centro dell'attenzione? Che poi dopo ovviamente era un po' come diceva Benito Mussolini, no? Cioè nel senso che se ne parli male o bene, basta se ne parli, insomma, no? Poi non, allora, non era quello che diceva Mussolini. No, lui diceva tanti nemici tanto onore, è vero, c'ha ragione, non c'entra niente, che era qualcun altro che diceva. Beh, l'ho cambiato con tanti amici, tanto onore. E quindi niente, vabbè, cioè nel senso è un po' questo qua. E poi c'è sta l'ultima categoria veramente importante, e qui ve voglio, perché c'è sta la bimba minchia super champion, quelle dei 70 anni, perché ci stanno. E Marco è testimone, perché io sto per dire una cosa, che Marco è testimone, che io ho uno zio che sta fidanzato con una dei 75 anni, che va in giro che le magliette corte e con l'ombelico di fuori e camini con, che è sempre quella che c'ha, che è pure questo è un mix, poi, perché è pure un po' Chicchetta Panterona dentro, perché c'è il pappagallo, ma è morto il pappagallo, capito? C'è un piscio. Ma quello per le urine, quello ospedaliero, sì, entrambe, non si sa bene se era un pappagallo per le urine o se era un pappagallo volante. Io veramente quando la vedo dico, cioè nel senso, cioè è vero che così è fa sto discorso, uno sembra un po' snob, no? Lo capisco, però infatti bisogna, come dire, secondo me bisogna fare dei test, una patente di come essere umano, no? Ok, tu in quanto essere umano, se non rispetti certi canoni che decido io ovviamente, io Mario, ti vengono tolti dei diritti, ok? In base a che livello sei. Cioè, tipo, appunto, credo che una trasmissione del genere la stiano facendo in questo momento in America quelli del Partito Repubblicano. Non so se sono d'accordo a quello che stai per dire, no, però dipende, di fondo sì. No, dipende, cioè, se rientri in certe categorie. Era Donald Trump, comunque, quello che ha citato Mussolini. Ecco. Donald Trump cita Mussolini, che non dice quelle frasi, però. Comunque, cioè tipo ad esempio fai le chiamate col viva voce, oppure ascolti musica a tutto volume col cellulare, eccetera eccetera, perdi il diritto di voto, per dire, ti vesti, non lo so, in una certa maniera, vai a vederti il cinepanettone, non puoi fare figli, mi dispiace, è illegale, i figli ti vengono dati in affidamento e così via. Ok, ma questo, quelli stronzi, però ti ricordate sempre che quelli... Esatto, allora gli omosessuali no, cioè non è una questione, è scevra di razza, orientamento politico e sessuale. Vi odio tutti, indipendentemente. E come dice, okay. La mia vita è basata sui dettami del sergente Hartman, che diceva: qui vige l'uguaglianza, qui nessuno conta un cazzo. Quindi più o meno questa è la base. Non ci sono problemi di razza, è uguale. Cioè, il problema non è che sei svedese o tunisino, il problema sei tu, essere umano. Quindi in quanto problema bisogna cercare di tappare questa cosa. Quindi io propongo di istituire un comitato, direi gestito da Piero e Alberto Angela, per giudicare chi merita, meglio, certi diritti e chi no. Mi fido molto più di Piero che di Alberto, però sì, potrebbe farlo. Beh, vabbè, un po', sì, Alberto si occupa dei giovani, essendo lui giovane come noi. E Piero invece non sei giovane, nessuno di noi è giovane. Secondo me quelli della famiglia Angela non è stato giovane mai nessuno, cioè neanche quando erano giovani. Ma è importante, sono comunque i veri illuminati. E quindi io dico di far scegliere a loro. Quindi possono anche togliermi dei diritti. Io dico, bah, guarda, hai ragione. Cioè, tanto che me frega, abiti in Svizzera. Sì, no, vabbè, questo è a livello mondiale, proprio, esatto. Cioè, ok, va bene. Te l'ho detto, deve essere assolutamente. Che cosa gli toglie a uno che crede nelle scie chimiche? Per dire, il diritto di voto in primis, perché tanto si sa giochi che vanno a votare. Io penso che poi che sì, restano in 10, penso che vanno a votare, sì, ma anche tra i politici, cioè, non perderebbero il diritto di voto anche i politici stessi. Sì, sì, beh, ovviamente, come dire, ma guarda, io vi faccio la massima provocazione. Io oggi rinuncerei al mio diritto di voto per non far votare sta gente. Cioè, nel senso che se devo rinunciare anche io al mio diritto di voto, sì, tranquillo, prendete il mio diritto. Posso dire voto, che sono con pizze, esatto. Cioè, non fate votare uno di loro che non voto io. Siamo in tre, dai. Va bene, cioè, ci sono anch'io, assolutamente. Io sono di quelli che tra poco gli danno il pupazzo. Io vado a votare per qualunque cosa, anche per non lo so. Volete dare l'indipendenza al Tibet, ma siete italiani? Esatto. Sì, Esatto. Ho esercitato in continuazione con orgoglio il mio diritto di voto, esatto. Ma io mi sacrifico proprio per... No, ma è molto più semplice. I bimbi minchia votano facendo like. Tu fai like, condividi quello è il tuo voto. Però non puoi fare in realtà è quello che vorrebbe Casaleggio, cioè, nel senso. Vabbè, adesso io non voglio entrare in questioni politiche, tanto più o meno ci insomma abbiamo capito. non voglio aprire il vaso di Pandoro per, che è proprio un vaso, ma non nel senso per portare i fiori, ma il vaso del Pandoro, un vaso da notte. Ma ci sono anche bimbi, parliamo anche dei bimbi minchia un pochino. No, prima c'è questa cosa, l'ultimo punto qui che vedo che secondo me l'ha inserito Alex, questo. No, quello delle mamme, la sfida delle mamme l'ho messo io. Allora dai, spiegaci. Però aprilo così almeno posso anche rinfrescarlo. No, perché c'è veramente questa cosa che girava su Facebook, sempre per la genialità degli uomini e delle donne, però in questo caso la sfida delle mamme, cioè praticamente queste mamme che postavano nelle foto di loro stessi con il bambino, è un po' come quella delle tette dell'università più o meno, però con il loro bambino. Giustamente la polizia postale ha detto: ragazzi, guardate che queste immagini poi vanno sui siti porno, insomma pedopornografici, quindi non lo fate. Però hanno continuato, quindi cioè, si arriva anche a far correre il rischio ai propri figli di andare su questi siti qui, che poi non dimentichiamo, in realtà rischio, in realtà il ragazzino ne è comunque inconsapevole, quindi a lui ne cambia niente, il problema è che è ridicola proprio la cosa. Mi è capitato veramente, ma pure perché a me, comunque ci sono anche persone che noi conosciamo che continuano, che sono diventati genitori e sono diventati genitori solo loro, sì, esatto, perché hanno la bambina, più gli fanno le poesie, lo può anche fare, però non rompe il cazzo alla gente a metterla su Facebook e sui siti, non gliene frega un cazzo a nessuno, non è vero, non gliene frega un cazzo a nessuno, la gente non lo so, cioè tu oramai posti tette, bambini e gatti è la stessa cosa, cioè appunto che essendoci, allora Idiocracy ce l'avete più o meno tutti presenti, il film, purtroppo sì. No, però lo sai che lo voglio vedere io, no, lo devi vedere, perché come ha detto l'autore poco tempo fa, dice non pensavo di fare un film, credevo che diventasse vero, infatti no, esatto, pensavo di fare un film, non un documentario. In breve, nella trama il si fa vedere che le persone con un quoziente intellettivo più alto, comunque più intelligenti, avevano molti più problemi a figliare per tutta una serie di motivi, tendenzialmente che riguardavano appunto la loro carriera, meno motivi fisici, mentre invece poi facevano vedere la classica famiglia di bifolchi redneck americana con 38 figli, uno più scemo dell'altro, eccetera eccetera, che si moltiplicavano in una maniera esponenziale come ratti. Il problema è che alla fine il mondo è popolato solo da imbecilli. perché chiaramente a furia di stiamo andando da quella sproporzione, esatto, e quindi chiaramente più passa il tempo più è pieno di cretini, e più è pieno di cretini più troverei altri cretini come te che metteranno il mi piace, che diranno oh, che bellino questa poesia che hanno scritto al loro figlio, con le foto, con l'orsacchiotto, la Madonna che piange, eccetera eccetera, e così via. E quindi chiaramente come dire, cioè loro sanno, un po' lo fai per te stesso, ma un po' lo fai perché sai che quelli che hai su Facebook o Twitter o quello che è, apprezzano, cioè qualcuno lo trovi, metti che hai 100 amici, per dire, di quei 100 magari 10 scemi come te ci sono, ok, e tu punti a quei 10 per avere autosoddisfazione personale, e anche a loro bisogna togliere, non lo so, il diritto di accesso a internet, ecco, ad esempio una cosa così. Ma infatti è quello che diceva Puccio Consoli, cioè, perché invece di togliere i diritti, cominciamo a toglierli internet a questa gente qui, già, che è già comunque un diritto, passo, guarda, sì, sì, magari no, poi infatti sentono la cosa raccontata dall'amico scemo come lui che però magari ha accesso a internet, e finisce che poi va nel loro voto, conta come il nostro, cioè si ritorna al punto iniziale. Bisogna togliere il problema alla radice. Poi io direi sterilizzazione sistematica di tutti gli esseri umani, ma questa è un'altra questione. No, aspetta, c'è una citazione qui che dobbiamo subire. Sempre di Mario Tosto. Sì, ah, Giovanni Tosto. Vabbè, no, tutti quelli che stasera ci scrivono si chiamano Mario. A nonna, ho visto come una cosa nera che mi sono spaventato un po'. Mi sa che quella portava la pelliccia sulle mutande. Insomma, vecchia... Perché un film di Verdone, la Soralella che faceva. Questo si confonde una fregna con una foresta, cosa del genere, non mi ricordo. Si riconosce manco la fregna. E vabbè, ragazzi, allora, che volevi dire dei bimbi minchia? Ma sti cazzi, i bimbi minchia ne faremo una puntata a parte, voglio dire. Ma cioè, no, parliamo un secondo, ma proprio un secondo, perché purtroppo il fenomeno è minore, però anche più intenso, i quarantenni. Che ovviamente non si possono fare le foto con la faccia a bucio, papera, sì. Perché insomma sarebbero un po' ridicoli. E quindi che cosa postano? Postano le classiche foto. Postano le foto di immagini di film, di supereroi, di videogiochi, con le frasi quelle fighe. Cioè, ah, perché oggi ho subito una sconfitta, ma domani il mondo sarà ai miei piedi. Sì. E ci mettono la foto di Superman, per dire. Sì, no? Oppure quel tipo con i guantoni da pugile. Ogni volta che cado io mi rialzerò, anche se tu mi farai cadere più forte, fortissimo del fischio. No, ma ce n'è sì, sì, sì. E c'è il coso del pugile che sta dando colpi c'ho, al sacco. C'ho un mio contatto che le sforna lui, proprio le fa proprio lui. Le fa lui? Le sue. Sì, ah, sì, è un sì, colpevole. Sì. È un colpevole, è un re. Porca miseria, morto di bestemmie. No, io ne ho uno che domani gli do il link del suo profilo, così lo puoi immortare di bestemmie. Io ne ho uno che oltre ad essere fascista e a postare queste cose. Sì, ma è fascista qui anche lui, infatti. Vedi che c'è una cosa. Beh, che allora, è o la stessa persona, oppure ritornano le cose. Spero di no, credo di no. Comunque, questo qua si mette anche mi piace da solo. Cioè, lui fa il post e 8 secondi dopo si mette il mi piace. A se stesso. Questo è un anismo, noi sappiamo, è un anismo sì, di bassa lega. Cioè, ho le prove, vi posso mandare. Vabbè, le questo foto è come io che mi ascolto i miei podcast, la stessa cosa. Ti masturbi sui podcast. Sì, ma non è che, cioè, non è che stai lì e ti fai il post, tipo ho fatto uscire un podcast e ti metti mi piace al tuo podcast. No, su lo facciamo, Facebook. Lo facciamo. No, io lo faccio, io mi piace. Sì, ma perché mi piace davvero, No, ma lì appunto è darsi 5 da solo, ma cioè, se unisci tutta la combo di cose tra immagini, adesso tolta anche lì la parte politica che lasciamo stare, ma tra l'immagine da imbecille o la frase di Ligabue e il mi piace da solo, cioè se si prospetta un cosa, e anche lì il tuo voto conta come il suo, ricordalo sempre. No, comunque, secondo me, vabbè, noi oggi sulla pagina dei Morti di Bestemmie, che vi invitiamo chiaramente a cercare Morti di Bestemmie su Facebook. Che vi invitiamo a venire. A venire, esatto, e mi piaciare anche lì. Perché se no lo facciamo noi. Se no lo facciamo noi per voi, quindi è meglio che lo fate voi. Insomma, abbiamo postato tutta una serie di sti meme, di sti immagini con le scritte. Ma in realtà anche quello, secondo me, meriterebbe una puntata solo di quello, solo a leggere. Perché secondo me solo a leggere certe veramente ci fai veramente le risate. Vogliamo prendere qualcuno esempio? Io vorrei che morriste voi di bestemmie per aver spammato quelle cose orribili. Che ero in tutto controllo. No, basta, no. un altro. E so che è Mario Raccuglia che ha fatto queste brutte cose. Sì, Mario Raccuglia, sì, lo chiamano per una serie lo di chiamano no, Nobesse Obige, come dice. Obige. La donna paffutella sarà sempre la più bella, condividi se sei d'accordo. Sì, tanto essere d'accordo. Ma in realtà la realtà è che io vuole un euro. Io cercavo queste cose qui, ma siccome ho oscurato qualsiasi canale del genere, perché avevo degli amici che magari su 500 amici che ho di Facebook, 50, cioè il 10%, erano dei fan di questi, ma sono quelli che postano tipo 4 cose al minuto, per cui riempivano la timeline, alcuni li ho oscurati, no, talmente sì, ho sì, fatto fatica io, a ritrovarli, anche io sì. A ritrovare anche queste io. Cose, perché i peggio proprio li ho buttati via e sono anche contento. Ma, io ne ho tenuta, io ne ho tenuta solo una, perché in realtà mi serve appunto da spunto. Però, è vero, no, anche io ce l'ho qualcuna. Infatti, quello che ho postato un io po' di meno. Quelle che ho postato io venivano tutte da due contatti, fondamentalmente, che so che mi danno della gioia su questo punto di vista. Contatti di cui non vedo nulla. Ma leggi questa, leggi questa. Che... La vita mi ha insegnato che non devo mostrare il mare che ho dentro a chi non sa nuotare. Infatti mostra la ciocia che è meglio. Sono una zia e sono orgogliosa dei miei nipoti. La zia cana. Ma pure questo è bellissimo, sì, vaffanculo e vi ho perduti ragazzi, vaffanculo alla gente falsa, agli infami e leccaculo a tutti coloro che vivono di cattiveria e sputano veleno, il rispetto per tutti, la fiducia per pochi, piedi in testa da nessuno. L'orgoglio, capito? L'orgoglio, fantastico. Questo mi sa che condividi anche uno di quelli che di qualche mio, anche tanti amici tanto onore, sì. Sì. Anche qualche mio contatto di quelli lì, delle fonti da cui attingere. No, allora io me ne sono tenuto una che, nonostante un livello culturale teoricamente buono, o comunque sulla carta superiore al mio, l'ho usata come base per fare un elenco di siti che trattano il 99% di bufale su cui non andare, sperando che, certo, magari lo vede lei e altri e smettono di condividere appunto le notizie. Notizie più vere del mondo, punto altervista, punto co, punto nz, no? Quelle cose, diciamo, questo sito qua è affidabile. Dice, ho messo questo URL, è perfetto. E niente, nonostante il mio sforzo di raccogliere, catalogare tutti questi siti, specificando anche perché, dice, guardate che sono segnalati, niente. Cioè, c'è una, non lo so, forse vivono più felici. Allora questo non questo, sono felice. No, questo guarda, ve lo dico, allora a Roma fermo a un parcheggio stavo in macchina con un amico mio, era estate, diceva al finestrino aperto, stavo un po' così, stava più un po' d'aria proprio con la capoccia un po' leggermente fuori dal finestrino, ci stavano sti due ragazzini sul motorino, bebe mo parto, mo squatto, mo bebe. Io mi sono guardato, che cazzo te guardi, beati voi. No, ma veramente, beati voi. Che cioè, non capito senso, un cazzo. Capito? Cioè, di che cazzo stiamo a parlare? Bene, va bene. Allora, ragazzi, non so. Siete in linea? Sì, certo. Sì. Sei tu che non sei in linea, sì, però esatto. Va bene. No, vabbè, e quindi non avete sentito quello che ho detto. Vabbè, non fa niente. No, l'abbiamo sentito ed è stato quasi divertente. Quasi. Benissimo. Però, allora, ecco, mi ha sentito ridere perché si sentiva... Ma tanto poi le risate le mettiamo dopo, non ti preoccupare. Esatto. Ed è contento Biggio di questa cosa. Mario Biggio, ecco, cosa ne pensi? Un altro dei motivi per il quale Maracuglia deve morire di bestemmie è anche voi. Sono le risate registrate, ma ne abbiamo già parlato. Però voglio fare questo sfogo in diretta, perché mi è stato anche spiegato perché ci sono. Ecce. No, però adesso voglio morire di bestemmie. Ma noi siamo già morti di bestemmie. Io approfitto per dirvi che c'è un'intervista in coda a questa puntata. La sentirete quando la scaricherete. No, e questa intervista in coda, no, stavolta non è Gaetana, spiega il motivo per cui questa cosa è andata così. Per cui, quando finiranno le risate, eccetera, eccetera, se avete voglia di scoprire perché ci sono queste risate di merda, allora ascoltatelo, altrimenti morite di bestemmie. Come si chiama la protagonista? In effetti, presi dalla confusione, tutta la parte introduttiva della trasmissione, in realtà non l'abbiamo fatta, la faremo insomma alla fine, dicendo insomma alla fine quello che avremmo dovuto dire all'inizio. Comunque, io direi che a questo punto. Vaffanculo. Questo argomento lo chiudiamo e andiamo al sangue del tapiro, se non siete d'accordo. Sì, anche perché è ora di spruzzare merda dalle vene. Esatto, quindi andiamo al sangue del tapiro. Il sangue del tapiro. Ok, allora mo vi racconto una storia. perché sapete che San Bertaviro è dove si raccontano le leggende metropolitane. Allora c'è stava uno che incontra una ragazza una sera e così dice: sai, passano una bella serata, pub, vanno in discoteca, si divertono, chiacchierano tantissimo, si confidano cose e alla fine una cosa tira l'altra e questi finiscono, insomma, trova un feeling importantissimo e alla fine finiscono e fanno l'amore. E lui poi la notte, insomma, a notte fonda, la riaccompagna a casa e dice: guarda, io abito qui. Lui la fa scendere la macchina, aspetta che entra dentro casa e se ne va. Però mi sono dimenticato una cosa, che durante la serata questa ragazza a un certo punto sentiva freddo e quindi lui, ovviamente romanticone, insomma, sa, con la scopa, gli ha detto: tieni, ti do. Romanticone, se gli dà, praticamente, gli presta il suo maglione. La mattina dopo questo dice: che cazzo, il maglione, porco di qua, porco di là. E allora arriva, insomma, dove si ricorda dove ha accompagnato questa. Le dà la macchina, il vialetto, suona, gli apre la signora, dice: guardi signora, io ieri sera ho accompagnato suo figlio a casa e sono venuto a riprendermi il maglione. Dice: ma guarda, non è possibile. Dice: come? Il mio figlio è morta. Mi fa ridere perché io quando ero ragazzino ci credevo a sta cosa, eh? Cioè, quindi, ma è quella cosa è che morta, devi dire, tipo, cioè, se è morta, capito? Allora dice: ah, ma come è morta? Lui ci rimane come uno strozzo, no? Diciamo. Ma perché non è finita? Ma no, non è finita. Infatti io stavo dicendo, se tu non qui è un problema. Non è finita. Dice: no, sì, è morta, se non ci credi, guarda, vai lì al cimitero, ci sta la tomba di mia figlia. E lui sconvolto perché dice: no, ma cazzo, cioè, non è possibile, signora, io, insomma, gli si è passata una serata meravigliosa con questa. Ma sono scovato. Incredulo. Questo va a vedere sto cazzo cimitero, cerca il nome di sta ragazza e trova la lapide. Stupito, perché sopra la lapide ci stava legato il maglione. Ma è finita. Ma è finita. Vabbè, io penso non, che non ho parole. Però si vuole divertire. Io sto ridendo perché sto ridendo un pizzi. È bellissimo per tutto culo, questo. Vai, per culo questa. Non l'ho capita. Giustamente non era ancora finita. Ah, ecco. No, ma secondo me non è ancora finita anche adesso. Adesso, ma secondo me non è ancora finita. No, ma è finita. Cioè, queste sono le storie che ti raccontavano da ragazzino, no? Quando tu da ragazzino, dai, non mi dite che non avete mai, se ne stavate in campeggio ai Boy Scout oppure a casa dell'amichetto. Buttarvelo al culo, lo so. Buttarvelo al culo prima di buttarvelo al culo. Ci si raccontava le storie, capito? De paura, de notte, roba del genere. Che così lo stringevi il culo. Però, ma quello mica sono da ragazzini, si fa ancora adesso. Però ti davano anche il maglione insieme? Sì, dice: guarda, te l'hanno buttato al culo, però almeno ti sei preso un bel maglione. Però almeno sei ripreso il maglione, voglio dire. Cioè, vabbè. Comunque, siete veramente aridi dentro. Io sì, vabbè. Non c'ho parole, insomma. C'è questa storia piena di romanticismo. Esatto. Invece tu c'avevi quella. No, io allora vorrei, per quanto riguarda merde che spruzzano dalle vene, avete sentito la storia del barbiere che è stato multato? La sapete? Sì. Racconto? Racconta, veloce, raccontala veloce, questa, perché non è bella come la mia. No, non fa ridere, questa è molto triste. C'era questa storia di questo barbiere. Ah, sì. Esatto. Che praticamente sembrerebbe che è stato multato perché gli sono andati a fare un controllo che lui aveva disattivato. Lui pagava la tassa per mandare in onda musica nella propria barberia. Però lui ha detto: oh, guarda, io l'ho staccata. E quindi gli sono andati a fare il controllo per verificare se questo distacco era reale. Però a quanto pare, così racconta il barbiere, ad un certo punto suona un cellulare e c'è una musica latinoamericana come suoneria. E allora che succede? L'impiegato della SIAE, che stava lì a farsi i capelli, no, stava lì a controllare che non ci fossero, che le cose fossero staccate, okay. Ha sentito e detto: ok, adesso devo fare il verbale perché lei ha trasmesso in questo locale una musica con il cellulare e anche non me ne frega un cazzo se è la suoneria, le faccio la multa. Questa è una storia molto triste, no? Che è stata raccontata, ripresa, condivisa su Repubblica, su Libero, dappertutto. Tutto felice. Però se voi utilizzate il vecchio trucco di mettere il titolo su Google e scrivere bufala a fianco, poi esce fuori la verità. Che è una bufala. La verità è che questo tizio è stato veramente multato. Cioè le cose sono andate più o meno come ha raccontato. Se non fosse che il tizio mandato dalla CIA in realtà ha visto che c'era una dog station con il cellulare infilato sopra e che stava trasmettendo musica tramite cellulare, per cui gli ha fatto la multa per quello, non perché c'era la suoneria. E quindi insomma adesso ovviamente dovrà pagare, dovrà prenderlo se posso dire una cosa, io che con la CIA ho avuto a che fare anche per feste e per robe del genere, non era tanto strana sta notizia, cioè nel senso non era poi così irrealistico il fatto che fosse successa una cosa, perché purtroppo a me mi è capitata una cosa che non posso raccontare perché sennò veramente mi rompono il culo, però cioè è il modo anche in cui si comportano sti funzionari, perché vengono là e ti dicono se non fai io ti faccio la multa, però se non vuoi che ti faccia la multa, e vabbè, non dico altro, insomma, perché poi questi hanno potere di fare questo. Pesanti, se non vuoi che ti faccia la multa, te lo butto a culo. Senza un maglione. No, ne una anche va io bene. Comunque, se volete. Dai. Sì, la tua leggenda urbana. La mia leggenda dove urbana. Te l'hanno buttato al culo pure a te. Anche me senza maglione. La mia leggenda urbana. Ma io tu ce l'hai, tu di tuo ce l'hai? Sì. Allora, praticamente è di un ambiente di nicchia che però fa sempre parte di questi imbecilli, delle frasi che credono alle bufale, eccetera, eccetera. Ovvero, in tutte le parti del mondo ci sono i gruppi italiani a... In Slovenia, italiani qui, italiani lì, più o meno che dovrebbero essere in teoria punti di aggregazione degli italiani nei paesi stranieri. Fatto sta che nel 90% dei casi, l'ho visto anche con un mio amico che sta sempre qui ma in un'altra città, sono degli aggregatori di imbecilli di vario tipo, cafoni, ladri, ignoranti. Fatto sta che uno ha postato una fantastica bufala, anzi una notizia, no, scusa, non era ancora una bufala perché era troppo bella per essere una bufala, che diceva che Renzi in persona aveva deciso che tutti gli emigrati italiani avrebbero dovuto dare 2000 euro allo Stato italiano, così, perché sono emigrati. A sbaffo! Così, sì, proprio. E la cosa migliore non è solo chi ci credeva, erano i commenti di chi postava dopo che gli avevano detto che era una bufala e continuavano a inveire. Cioè, perché quel bastardo lì. E sopra c'è scritto: ragazzi, guardate che è una bufala. Ma quel pezzo di merda, deve morire. Cioè, io dico, uno anche lì la stessa cosa, controlla, vedi, informati, non è vero. Poi se ci rifletti un attimo, cioè, manca anche di basi. Ma soprattutto dopo che ti hanno scritto che è una bufala. No, vabbè, che manca di basi, quello non, cioè, gli italiani non lo sanno. Questo. Cioè, ci sono le foto di persone famose condivise, cioè, questo tizio ha rubato i soldi alla povera vecchia. Bastardo, infame. Questo è Said, arabo, sì. Viene pagato dallo Stato 2700 euro al mese. Mario Rossi, impiegato. Fa la fama, cioè se stronzate qua, e poi magari quello è un attore americano, capito? Cioè, sì, nel senso, io ho dovuto smentire due Vanni, il compagno di merende di Paciani, perché due persone diverse hanno postato: lui è Mario, pensionato di 80 anni, il governo gli ha tolto la sua pensione minima, eccetera, eccetera. C'era una foto di ha sparato a un marocchino che gli stava rubando la pensione, una roba così. C'è la foto di Vanni in carcere con dietro i carabinieri. E tutti giù: bastardi, governo bastardo. No, ma guarda che internet è per questo che ha distrutto il mondo, cioè, nel senso, a me io l'altro giorno ho dovuto cancellare un utente proprio perché lui diceva è abominevole, è uno schifo, io sono indignato, perché tutti non si indignano, e fa praticamente condivide la notizia che a Torino avevano aperto sta chiesa satanista, no, che in realtà si sa che è una mezza bufala, no. E allora tutti gli dicevano: guarda, è una bufala. Io mi indigno uguale. Io ho detto: ma perché, scusa, ma perché ti indigni uguale? Non è vero. Di che cosa ti indigni? Tu parti indignandoti, esatto. Poi magari. Allora, guarda, io ti condivido che a Palermo hanno aperto un campo di concentramento di sterminio per bambini biondi. E tu ti indigni perché tanto è uno schifo. Eh sì, io mi indignerei comunque. Ma cioè, ma stai a scherzare quello che dice? Cioè, l'ho dovuto cancellare perché, cioè, è veramente. Di che stiamo a parlare? Sono tutti indigni. È l'indignazione poi preventiva, come la guerra preventiva. Esatto. Tu inizi indignandoti e poi, capito? Poi magari cambi idea, da sei, dopo un po' ti passa, sai, sono quelle incazzature lì, no? Poi inizi poi indignandoti di default. Poi... Cos'è quando le passi? Quando passa? Dopo che l'ha preso nel culo senza il maglione. Esatto, lì ripassa. Ha detto che Biggio il maglione ce l'ha de suo. Sto parlando in generale. Qua, ragazzi, oggi nevicava, cioè, cosa volete che vi dica? Signori, la neve! Oh ragazzi, però che abituato a vedere 27 anni vedendo sabbia. Fa un pomeriggio di neve. Sabbia esci fuori bestemmiando. Ed eccoci qua con l'ultima parte del nostro programma, la terza parte in streaming. Ragazzi, qui stiamo facendo un casino che la metà basta. Bellissimo, perché sono tutti tornati i nostri cari ascoltatori, li possiamo contare sulle dita di una mano con le dita medie. Monca. E vi... Monca. Allora, abbiamo parlato anche di Aridate c'è il tempo perduto? Sì, diciamo che c'è un Aridate, però siccome siamo andati un po' lunghi sta puntata ce lo teniamo per la prossima puntata. Prima di partire a parlare dei commenti, vorremmo ringraziare i teleascoltatori. Perché ringraziamo. La news è sempre la stessa da due mesi. No, la cambiamo, sta news qua, dai. Abbiamo copiato incollato. No, ringraziamo a prescindere noi. No, crescono gli abbonati al canale Spreaker e alla pagina Facebook. Grazie, siamo quattro in categoria commedie bla bla. Ma è vero o non lo siamo più? Siamo più. Andatevene a fanculo lo stesso. Quindi, però adesso, io penso che neanche gli sceneggiatori di Boris scrivono la scaletta così, cioè. Tutto senza uso comunque... di droghe, tra l'altro, cioè, almeno. E questo o di maglioni. Sì. Vorrei comunque ringraziare i teleascoltatori perché nella metà del tempo abbiamo raggiunto già gli stessi ascolti della prima puntata con la seconda puntata. È stato molto bello e go like this, condividete. Cioè, che cazzo ci avete da ridere? Che cazzo avete scritto qua? Ma dove? E questo sì è bello, dai. Però leggi adesso. Quindi attenzione, mi si ferma il cuore così a me. Fino le pillole, attenzione, non ci sono più pillole. Mi viene da ridere però. Ambrogio, allora, regala ben bel fiore. Ti regalo orchidea. Vabbè. Però devi farlo più maiuscolo, vuol dire come se fosse inevitabile. Ti regalo l'orchidea. Vabbè, va. Allora dai, la Spreaker c'è Ulrich Under. Come hai sputato in faccia? Ma il growl di Alex è real time o è un effetto in post produzione? No, è un effetto in post produzione. No, allora, attenzione, tutto, è un effetto in post produzione che fa lui con la gola, però quello è tutto. Esatto, lui si post produce la gola, tra l'altro. Con Alex, soprattutto Alex. Lui come essere umano. Io non esisto, sono sì, un CGI. Sì. È come Max Headroom, ma la stessa cosa. Carmine Puccio. Oh, comunque non l'ho divorziato poi, perché c'era sempre la diatriba, il fatto del rischio del divorzio. Qui c'è l'amico tuo che ogni tanto cambi cognome. E c'è? Geggio Geggio Geggio. Nome gli cambio. Geggio von Waterhorn, perché dichiaro origine sassone, no? Sassone, diciamo perché non è un terrone, è un von Waterhorn. Esatto. Forse un po' off topic, ma come non considerare la TV trash nostrana? Cito tra i tanti Il boss delle cerimonie e L'isola di Adamo ed Eva, se possibile ancora più trash della versione. Ma ci arriveremo anche a quello. Sta tranquillo, il boss delle cerimonie meriterebbe una cerimonia tutta sua. Giorgio Pirondini, morti di bestemmie, santi subito, blasfemia, portami via. Esatto, questo l'abbiamo apprezzato veramente tanto. Grazie. Julian Clement. Carino, però la parte finale dopo i titoli di coda assomiglia a 50 sfumature di grigio. No, era, sarebbe stato 50 sfumature di bigio, perché esatto, quella settimana c'erano tutti i bigi praticamente. Da Facebook, ancora c'è un'altra volta Carmine Puccio Console. È Irrefrenabile che ci dice: al prossimo giro possiamo uccidere di bestemmie gli antivaccinisti, quelli che spacciano bufole su internet. Ad ogni vaccino di mia figlia litigo con qualcuno in fila. Beh, ma questo è con calma, poi ci arriviamo pure allora, tanto ce ne stanno tante. Danilo Giardino, il grosso problema è che non muoiono tutti all'istante, no. Non muoiono, no, il grosso problema è che, tra l'altro, se poi morissero tutti sarebbe un problema anche per noi, per cui dobbiamo pure salvarli. Beh, non è detto però, eh. Potrebbe anche essere una cosa positiva questa cosa del dobbiamo salvarli, non l'ho capita, però va bene. No, non possiamo sopravvivere senza i coglioni. Non ce la facciamo, non possiamo sperare che si schiantino, perché senza di loro non ce la facciamo. Abbiamo bisogno di salvarli per salvare noi stessi, e questo è il grosso problema. Bisogna tenerli nelle riserve come gli indiani d'America. Capito? Ma sono troppi. Sono loro che mettono noi nelle riserve. Quello è il problema. Vabbè, forse non è un male, lo sai. Facciamo il contrario. Danilo Giardino, che non so dove sia, però vabbè. Ecco, ascoltato in diretta, ma ci sarà anche l'intervista finale nella puntata? Certo, c'è stata, no? Quindi, Michele Berti non riesce a parcheggiare senza ridere. Park Tier. Bella puntata. Mi piace sto format violento e politicamente boh. Corretto. No, se Massipizzi gira le cose non mi fa più un cazzo. era arrivato, c'era solo scorretto. Umberto Primiceri. Me la son fatta sotto dalle risate. Un consiglio, ma forse più che un consiglio, è un parere dettato dal gusto personale. Eliminate le risate del pubblico, vedi? Non piace. C'è l'intervista, dopo vi spiegheranno. C'è una motivazia. A volte coprono le vostre voci e comunque non avete certo bisogno di aiuti per far ridere a crepapelle. Come sempre, mitici, non è un aiuto per far ridere, che per così almeno non ci si sente quando facciamo le puzzette in diretta. Esatto, perché a volte succede. E invece sentono le risate. Federico Bertesi mi avete piegato dalle risate. Non ci ha già postato qualcosa. La cosa fantastica, e qui poi andiamo anche a chiudere, che abbiamo ricevuto una mail. Esatto. Walk solo. Walk solo. Arrivano anche a me con il larger penis, dovrebbe essere lo stesso. Ciao brutta gente, visto che dite che nessuno ci scrive mai, eccomi, quindi ci scrive. Eccomi qui pronto a biascicarvi contro con tutta la simpatia e amicizia possibile, ovviamente. Seguo, o è il caso di dire seguivo, da anni PN, e ora mi diverto un casino a seguire questo nuovo corso degli eventi. Non avendo mai avuto nulla di intelligente da dirvi, ma cioè sarebbe stato comunque più intelligente di quello infatti, che abbiamo noi. Voglio dire, scrivi tranquillo. Ma cioè, vai, se non i bravi, belli, eccetera, di cui sinceramente so che non ve ne frega un piffero, non mi ero mai azzardato a scrivere. Ora colgo l'occasione e lo spunto dalla vostra ultima iterazione podcast per segnalarvi questo video. Ve lo segnalo per due motivi. Uno, perché così Marco Gualdi Biggio Raccuglia potrà meglio argomentarsi sul perché gli alieni non ci invadono. L'ho visto, è molto carino. Per diffondere il canale di questo ragazzo che, senza tante pretese, divulga con un po' di sapere che non guasta mai, con questo mi beccherò la mia bella dose di biasciche. Spero vi interessi. Un saluto e continuate così, che siete fantastici. PS, perché il Burigana è triste? Non lo so, perché è triste il Burigana? Non so, è perché è solo. È fatto così. Burigana. Ciao, Luigi. Luigi. Vabbè, e poi c'è il link di questo tizio che parla degli alieni. Twitter addirittura. Veganal da Jake Reale. Veganal come stile di vita. Morti di. Vabbè, questi sono i vari hashtag rimandi. Cesco 78. Meglio la blasfemia che la forza, se no mi leggete sui giornali. Kid Pix, che è un Mario, lui, mi sembra che sia un Mario. Sì, lui è il Mario originale. Lui è il Mario, esatto. The Mario Within. Sto sentendo mentre. È la madre di tutti i Mario. Esatto, sto sentendo mentre faccio il tapiro ferito. Grande. Ciao, Stefani Grandi. Su iTunes Umbi 63, ma d'altra parte con un team del genere non ci si può aspettare niente di meglio del top. PS, ma quando è che su iTunes oltre alle 5 stelle mettono anche la cometa? Ma penso quando metteranno i tapiri. Il podcast è a 5 stelle, insomma bisogna aggiungerlo nel coso di Facebook. Allora Alex, diamo qualche cosa che dovevamo dire prima, che non abbiamo detto, non so. Ci potete trovare cercando Morti di Bestemmie, ed è molto semplice perché nessun altro stronzo ha avuto l'idea di usare un nome così pazzo, per cui ci trovate dappertutto. Vi consigliamo di iscrivervi sul canale Telegram di Morti di Bestemmie, in cui potete ricevere giornalmente o ogni tanto delle simpatiche immagini che vi ricordano che è bello essere una sorella. Condividi se è una sorella, anche se è un fratello. Io avevo visto l'immagine, condividi se tua se tuo fratello ha una sorella bellissima e cose varie. Allora se tua sorella, no aspetta, se hai anche tu una sorella bellissima, l'avevo detto. Sì, vabbè, Biggio, dai, poi dopo quella roba lì. Dopo lascia il maglione su sulla lapide. No, sia ben chiaro, guarda che noi non siamo omofobici, non ce ne frega assolutamente un cazzo, cioè era più che altro perché dovevamo dire qualcosa, ci stava dentro il maglione, appunto qui, cioè io mi dissocio da quello che io stesso ho detto. Io non ho, contro i maglioni non ho niente, cioè, ma io non ho anche, neanche non ho capito quello che hai detto, quindi comunque mi dissocio pure io, dai. Stavo tornando bene. Un attimino su politicamente corretto, dai. Ma infatti vaffanculo, cioè. Va bene ragazzi, è stato come sempre bellissimo. Cercate Morti di Bestemmie su iTunes e abbonatevi, cercate ovviamente la pagina su Facebook, fate mi piace, così insomma potete tranquillamente seguire, suggeriteci anche cosine, insomma, carucce. Ah, dobbiamo salutare anche la nostra ascoltatrice fedele. Scocciatrice, cosa molto brutta. Come si chiama? Federica qualche cosa, insomma. Bello, no, è bello anche salutare, te facci vedere le zizze. Salutare Escile. No, salutare, dai, no. Una volta che c'è un'ascoltatrice femmina, cioè. Cioè, ci sono anche ascoltatrici uomini. Magari è Gwen. A parte sta qua Gwen, che non la conosciamo. Gwen, facciamo un sondaggio. Chi di voi vuole vedere le tette di Gwen? Io a prescindere. Ecco. Anche se Gwen non dicevi Escile. Io sì. Quando si tratta di zizze va bene comunque. Sì, guarda, potresti vedere anche le tette di Simone Pizzi, cioè. Ma quelle potresti averle già viste. L'ha viste. Comunque Giovanni Tosto ci dice è il panico, attenzione, torna il panico. È il panico, lo ricordi? Attenzione, è il panico. Va bene, allora salutiamo Mario Raccuglia. Ciao. Ma che è? Salutiamo anche Mario Gualdi. Porco due. Bellissima. Salutiamo anche il fantastico ospite di questa volta, che è Mario Biggio. Tu sei post prodotto per davvero. Non abbiamo litigato, diciamolo, perché la gente dice: ah, ma t'hanno preso in giro. No. Tu ci vuoi bene. Ma che? Beh, non sarei qui. No, che, allora è andata così. Abbiamo litigato. Allora loro hanno iniziato a usare il mio nome, anche se non ero io. Per insultare. Lo Stefano, esatto, di cui parlavano. Poi il mio cognome e non ero io di nuovo. Anzi, no, in quel caso lì ero io. Poi c'è arrivata la lettera dell'avvocato e l'abbiamo invitato. Esatto. E adesso siamo così. Non può far causa a noi. Abbiamo pensato se anche lui sta dentro la trasmissione. Esatto, si fa caso da solo. Si fa presto, insomma, di no. Va bene. Esatto, mi sono fregato con le mie mani. Trovate Mario Biggio ovviamente sulla sua fantastica trasmissione che fa con il fratello Stefano, che è Biggiocast, mi sembra, che è Retrocast. E anche molti un canale YouTube. Guarda, io ti consiglio comunque, caro Mario, chiama la tua trasmissione, cambia il nome, stravolgi la cosa, dai un cazzotto alla situazione, chiamalo Mario Cast. Secondo me spacchi. No, sì, c'è anche un fantastico canale di YouTube coadiuvato da fu IPN, ma nelle persone, in questo caso di Simone Pizzi principalmente, ma anche di Carlo Brighene per quanto riguarda la parte audio, che è microsolchi, però per gli amici microsorche, o per quelli che vanno in discoteca micropunte. Ed è così, all'ultimo minuto cosa succede, ma ci fidiamo. Bene, ciao a tutti, buonanotte, ciao, non sentiamo più niente. Ciao, buonanotte, ciao. Buoni maglioni a tutti. È andato tutto a mignotte. Sarsiccia. Buongiorno, siamo qui con Alex Raccuglia, uno dei tre autori del podcast Morti di Bestemmie, e siamo qua per fargli un'intervista molto particolare. In pratica, Morti di Bestemmie stiamo vedendo che sta avendo un discreto successo superiore alle aspettative. E però il pubblico, che pur apprezzandolo in toto, si è un po' diviso, e una percentuale non trascurabile del pubblico continua a dire che che c'è bisogno di togliere le risate aggiuntive. E siamo qua con Alex perché appunto ci racconti il suo punto di vista. Buongiorno. Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori. Ma posso farti una domanda io? Perché hai questa voce così mascherata? Indovina un po'. Vabbè, ok. La risposta è anche abbastanza chiara, per cui cercherò di essere, insomma, di essere coerente. Perché le risate finte? Allora, dovrei fare un passo un po' indietro nella storia e tornare con la mente a una delle prime puntate di archeologia videoludica che ho realizzato. Archeologia videoludica inizialmente veniva editata e mixata da Andrea Milana, che faceva un grandissimo lavoro di post-produzione audio e ci aggiungeva tantissimi effetti sonori. Diciamo che riusciva con questi effetti sonori a dare una sorta di supporto, una spalla ai presentatori. Insomma, facciamo un grandissimo lavoro, l'abbiamo apprezzato tutti. Quando io ho preso in mano le redini di archeologia videoludica, insomma, diciamo che mi sono messo nella stessa situazione, nelle stesse condizioni. Parallelamente, in quel periodo stavo anche mixando Multimanie, che era un programma, una trasmissione molto particolare, molto scanzonata e canzonatoria, per cui c'era bisogno di un ritmo molto, molto sostenuto, e anche in quel caso lì c'era l'aggiunta di effetti sonori, di cavolate, a volte anche volgari. Era un periodo in cui la comunicazione, cioè, diciamo, era molto diversa. 5 anni fa YouTube non era il regno degli youtuber, ma era il regno delle scoregge, dello slapstick visivo. E l'idea era quella di creare anche dello slapstick audio, il suono della scoreggia, il suono del rutto. Cioè, rutto e scoreggia sono abbastanza terrificanti, però per certi versi sono anche primordiali, e in quel contesto facevano anche ridere. Poi le cose sono cambiate, mi sono messo a fare l'altro, fino a 2 mesi fa, quando mi ho cominciato a pensare a questo podcast Morti di Bestemmie. E i Morti di Bestemmie doveva essere un podcast molto scanzonatorio, molto scanzonato, anche, non dico al limite del volgare, però al limite della sopportabilità, un po' quella cosa di politicamente non corretto, che però poteva avere un suo pubblico e una sua forza, di gente nata negli anni 90, diciamo, abituata al tipo di comicità relativamente volgare. Dal mio punto di vista, io ho sempre considerato la volgarità come qualcosa di molto particolare. In pratica, ho sempre detto che dire una parolaccia volgare, dirne 100 diventa una parodia della volgarità. Per cui, secondo me, se ci sono 100 parolacce, la singola parolaccia perde di valore e diventa una sorta di rappresentazione iconica del cattivo gusto. Per cui tanto cattivo gusto diventa kitsch e diventa anche positivo per certi versi. Kitsch, trash, insomma, chiamatelo come volete. E beh, insomma, quando ho iniziato a montare la prima puntata di Morti di Bestemmie, mi occupo dell'editing, al momento della presentazione, dopo la sigla, ho aggiunto un applauso, perché mi piaceva l'idea di sottolineare la cosa con un applauso. Ci siamo fatti un applauso finto, e dopo un po' basta, siamo andati avanti, e a un certo punto, circa 5 minuti dall'inizio della puntata, c'era una cosa talmente stupida che uno di noi ha detto, non mi ricordo neanche cosa, che volevo sottolinearla in qualche modo, per cui ci ho aggiunto anche delle risate finte. Al che mi riascolto questo pezzettino e vedo che questa cosa con le risate finte mi intrippa, cioè mi intriga, mi piace. Era aggiungeva qualcosa, e mi sono detto, ma cosa succede se io aggiungo le risate finte ad ogni cavolata che diciamo? Perché ne diciamo tante di cavolate, alcune delle quali non facevano neanche particolarmente ridere, però volevo per un certo momento fare l'effetto drive-in, cioè qualcosa di violentemente stupido che servisse. Al che ho aggiunto tutti questi effetti sonori, è stato un lavoraccio, è un lavoraccio. E però, riascoltando la puntata con tutti questi effetti sonori, la maggior parte dei quali sono risate finte, alcuni applausi, oltre ad alcuni effetti sonori veri e propri, e mi sono reso conto che il ritmo aumentava tantissimo, cioè la percezione del ritmo della puntata era elevata. Io di mestiere faccio video, credo che molte della gente che ci ascolta lo sa, io mi occupo di video, ho sempre pensato che l'audio è la cosa più importante del video, perché un video può essere scrauso, sgarruppato, girato male, fuori fuoco, ma se l'audio è di buona qualità, la percezione non razionale, però la percezione di pancia del video aumenta. E la gestione dell'audio è molto è qualcosa che necessita di molta esperienza. Per mia esperienza personale, quando faccio il sound design, faccio gli effetti sonori di un video, magari mi capita di fare degli effetti sonori di un video che ha anche una sua componente di spettacolarità, cose che si muovono, la motion graphics, ma anche gli effetti speciali, aggiungere tanti livelli di audio, magari con un suono dominante ma con tanti sottosuoni, insomma, questa cosa aumenta la potenza. Se voi prendete un video di motion graphics senza gli effetti sonori e lo guardate, poi lo riguardate con una serie di effetti sonori basilare, e poi lo riguardate con una serie di effetti sonori, quelli base, quelli i master, ma anche con gli effetti secondari, la secondaria animation dell'audio, diciamo che la ricchezza di questo video aumenta esponenzialmente, diventa molto più importante. E allora mi sono detto, ma se facessimo questa stessa cosa anche per il podcast? E mi sono reso conto che l'effetto è questo, cioè il fatto di aggiungere risate serve a livello inconscio a sostenere il ritmo della trasmissione. Molto spesso, se ascoltaste una puntata di Morti di Bestemmie senza queste risate aggiunte, non avreste lo stesso impatto. Qualcuno può dire che possono essere anche fastidiose, e infatti stiamo lavorando a un modo per rendere questo che si senta ma che non dia fastidio, cioè che sia compatibile. Ma l'aggiunta di questi effetti sonori, delle risate, tiene la tensione a un livello, la tensione di ascolto, non, è una tensione positiva, a un livello tale per cui il ritmo della puntata ne guadagna. Poi è ovvio che possiamo fare fine tuning, e dobbiamo fare fine tuning, dobbiamo gestire la cosa in maniera piuttosto automatica. Sono il primo a dire che bisogna migliorare questa cosa qua, però così facendo l'approccio ritmico insomma, ne guadagna. Oserei dire che bisognerebbe farlo anche di più, farlo meglio, in maniera un pochettino più razionale. Già adesso comunque montare una puntata di 80 minuti mi prende 3 ore e mezza, 4 ore, e insomma non sono poche. Di solito l'idea per una puntata del genere era di metterci 80 minuti al massimo, cioè l'idea era di avere un rapporto 1 a 1, ed è già troppo. Così abbiamo un rapporto di 3 a 1, cioè nel senso, per ogni minuto di trasmissione finale ne vanno 3 minuti, per ogni ora di trasmissione finale ci vanno 3 ore per il montaggio. Però l'approccio, cioè quello che ne viene fuori, il risultato, secondo me, dal punto di vista non razionale, cioè la gente non se ne accorge ma gli piace di più, e questo vale lo sforzo. Per cui io credo che questo sia il motivo per cui dobbiamo continuare su questa strada. Può non piacere, dobbiamo migliorare, sono il primo, ma questa è la strada su cui andare per produrre un contenuto con una confezione e una sua struttura ritmica e di fruizione elevata. Grazie Alex per questa intervista. Come pensi che si possa migliorare il processo di post-produzione? Ci stavo pensando l'altro giorno, perché dopo aver montato la puntata e aver messo gli effetti sonori, me la sono riascoltata in automobile, intanto che andavo in giro o tipo tornavo a casa dal lavoro o andavo dalla casa al lavoro, e mi sono reso conto che in un paio di punti avrei aggiunto altre risate e magari in altri non l'avrei neanche messa. E mi sono detto, cavoli, dovrei segnarmi questo minutaggio, andare poi in ufficio o in casa dove ho il file col progetto e aggiungerci le risate, ma non ci sono riuscito, perché me ne sono completamente dimenticato, non mi sono segnato il minutaggio, cioè ci sono anche dei limiti. E sarebbe bello riuscire a fare una cosa del genere a posteriori, oppure per lavorare in offline. Sto pensando a un'applicazione che possa essere condivisa tra tutti i conduttori o i produttori della puntata, che consente a ognuno di ascoltarsi la puntata col proprio cellulare, e nel momento in cui vuole aggiungere qualcosa, una risata, una risata molto forte, un applauso, oppure un buu, oppure i fischi, oppure approvazione tipo di poterlo fare. cliccando su un bottone automaticamente questo aggiunge su un database il time code, e così si può avere una sorta di automazione delle risate. Ci sto ancora lavorando, non so se ci riuscirò, però vabbè, questo è il mio obiettivo, che poi sarebbe un obiettivo condiviso, perché tutte le persone che lavorano alla puntata ascoltandola possono aggiungerla, e ovviamente due risate vicine si sommano a vicenda e diventano una risata unica, per cui sarebbe comodo per fare questo. Non so, Simone si ascolta la puntata, io me l'ascolto e ognuno di noi decide dove aggiungere la risata, e tutti questi marker vengono salvati su un server. Però è ancora un pur parlé fattibile, non so quanto, però è interessante. Ottimo, questo è un buono spunto di riflessione, e bene, direi che ci siamo e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata. Ciao, ciao. Morti di bestemmie. Inevitabile. This podcast has been produced with Pod Cleaner.